È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sui Balcani che tengono lontane le zanzare. È laica, è laica, la matriosca è laica e suona con mai. E iniziamo oggi da un Angelino Alfano che sembra Nichi Vendola quando parla della straordinaria bellezza democratica di scegliere il Presidente della Repubblica. Per quale motivo al mondo si parla di queste cose, dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, del semipresidenzialismo alla francese in questa situazione? È ancora un mistero. Alfano. Ma me lo auguro per l'Italia, perché immaginatevi la straordinaria bellezza democratica di una competizione in cui ciascun cittadino italiano sceglie il proprio Presidente della Repubblica. Immaginatevi la grandezza democratica di questa partecipazione collettiva che supera ogni antipolitica, che supera ogni dinamica di casta, che supera ogni dinamica di inciucio di palazzo per eleggere il Presidente della Repubblica. Sofia, portami via, non voglio più mangiare pane e gu. Avete capito? La bellezza di eleggere il Presidente della Repubblica. Angelino Alfano, finalmente ci sei, Parenzo, eh? Certo che ci sì, sono. Sì, certo, un par di. Comunque, lasciamo perdere. Ci sono sempre, mi hai mandato, io sono il tuo inviato in giro per l'Italia. Sì, sì. Sì. E hai deciso di mandarmi qui alla sede di Vedrò? No, non ho deciso di mandarti da nessuna parte, l'hai scelto tu e a me non mi interessa dove sei questa sera, basta che si senta. Travaglio, stai zitto, sono da... telefonato da e insisti, stai zitto, Travaglio che dice l'idea della Severino per il terremoto fa cadere le braccia. Devo dire che poi l'uscita della Lega fa il paio con quella del ministro Severino che vuole mandare i detenuti a ricostruire l'Emilia Romagna. C'è una regione che avrebbe bisogno di case antisismiche, a chi le fai fare? Ai detenuti? Li fai mettere così un mattone sopra l'altro tanto per ammazzare il tempo? E purtroppo sono queste le uscite che ti fanno cadere le braccia. E ha ragione lui, sono uscite che fanno cadere le braccia, caro ministro Severino. Mandare i detenuti in che modo, come, quando, perché? Beh. A che scopo? In Emilia a fare cosa? A fare cosa? La prima volta che sei d'accordo con Travaglio, guarda. No, non è la prima volta, ma non mi vergogno di essere d'accordo. Io guardo le frasi, cioè sento quello che una persona dice, poi che si chiami Travaglio, che si chiami Formigoni, che si perché chiami Mussolini, che si chiami Hitler. Perché Travaglio solo all'idea che un detenuto possa reinserirsi nella società, magari, e allora già quello, siccome non ci sono manette. Ma questa è la tua interpretazione. Ma questa è la tua interpretazione del pensiero di Travaglio. A me non me ne frega niente di fare l'interpretazione. Io leggo, ascolto e poi ragiono. Non è che penso sì, forse intendeva dire, eccetera. In questo caso ha perfettamente ragione. Il ministro Severino ha detto una boiata. Punto e basta. Le zanzare. La questione molto discussa delle nomine all'Agicom, la gente ne parla molto per le strade dell'Agicom, l'agenzia della comunicazione e per la privacy, scelti dal Parlamento. E cosa vi aspettavate? Che il Parlamento nominasse delle persone che voleva il web, che voleva la rete o che voleva non so chi? Scelgono delle persone secondo logiche di spartizione, le famose logiche di spartizione. Naturalmente si spera con un minimo di curriculum per le singole persone. Di Pietro, i curricula invece, secondo Di Pietro, sono stati usati come carta d'accesso. È stata data la possibilità di presentare a chiunque potesse pensare di averne i requisiti il proprio curriculum. Solo che questi curriculum sono stati utilizzati come carta d'accesso. Crozza, D'Alema, sentite. Oggi ha parlato anche Massimo D'Alema, ha detto che sarebbe una sciocchezza il voto ad ottobre. Finalmente un buon motivo per votare ad ottobre! Gerani, mettiamo Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Intanto Monti pare che sarà convocato dalla procura di Trani per un'inchiesta su Standard & Poor's. Fantascienza? No, cari amici della Zanzara. È la giustizia italiana, eh? È la giustizia italiana. C'è una procura a Trani che fa un'inchiesta sulla finanza internazionale, sulle agenzie di rating. Vi rendete conto? No, la procura di Trani per un esposto del signor Lannutti dell'Italia dei Valori. Questa è la giustizia in Italia. Si perde tempo in queste follie e si pensa di convocare addirittura il Presidente del Consiglio. Il nostro amico Dordolo, autore delle Dordolate, il leghista, sì, capogruppo a Udine, rifiuta l'espulsione. Devo dire che ci ho ripensato su questa storia. Ha ragione lui. No. Attenzione, dice: trattatemi come Borghezio, è una pena iniqua. Lui sostanzialmente cosa dice? Dice che le stronzate ne ho dette io, ma ne ha dette anche Borghezio, tanti altri nella Lega hanno detto delle cose molto forti, eppure nessuno è stato espulso, al massimo sono stati sospesi e poi riabilitati, espulsi per altri motivi magari, no? Cioè dice: beh, perché io ho detto una cosa forte, sì è vero, ho sbagliato, però non merito l'espulsione, merito di essere trattato come Borghezio, non ha tutti i torti. Ancora Crozza! Sentite, sentite. Pensa ad un alieno che atterra da noi e si fa raccontare la nostra situazione politica, no? Un ex cantante delle navi si sente minacciato da un comico genovese e per contrastarlo propone un conduttore di quiz. Sembra la trama di una puntata dei Simpson, Giova! Si riferisce naturalmente a Gerry Scotti, che però ha smentito di essere candidato. Esatto. E poi il nostro amico Edward Luttwak, il quale è intervenuto ieri a Ballarò, ha detto che il primo ministro tecnico, e su questo ha ragione, ha sempre ragione Luttwak, sì, quasi sempre, primo ministro tecnico deve essere cattivo, molto cattivo. E effettivamente è così, sta calando un po' le braghe, eh? Sentiamo. Lo scopo di un primo ministro tecnocratico è di essere cattivo, di essere duro, di fare le cose che i politici non sono riusciti a fare. Solo dopo questi tagli si deve arrivare a tagliare pensioni. Tagliare, tagliare, sempre tagliare, dice Luttwak. Tagliare, deve essere cattivo primo ministro tecnocratico. Lo scopo, non le pensa. Combattivo al massimo. Com'è che dice, per esempio, sui sindacati? Che dice Luttwak? Sindacati sono grande problema di Italia. A sindacati, Zanzara e Agnoletto bloccano tutto il paese. Basterebbe prendere un caccia bombardiero e bombardare la triplice, è risolto il problema di occupazione, di sviluppo. L'America è così, trade unions non conta un cazzo. Ma scusi, però ho capito, l'Italia funziona diversamente, professor Luttwak. Avete robe noiose, concertazione, discuti, perdi ore di produzione a discutere, quel squinzi non vuole concertazione. Bene, questa è la Zanzara. Abbiamo appena iniziato, cari ascoltatori, primo ospite, l'onorevole Sonia Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori. Boh, adesso ci ricolleghiamo, perché è caduta la linea. Beh, un inizio scoppiettante, direi, un inizio scoppiettante. Ma hai visto cosa è successo in Regione Lombardia? Che è successo? Sì, no, ci sono due notizie da dare. In Regione Lombardia è stata confermata la fiducia a Formigoni, ma questo è scontato. Cioè, ma la Lega, il nostro amico Salvini, allora... Adesso non ma faccia criticano, troppo... criticano, ma non hanno il coraggio di sfiduciare Formigoni, perché l'abbiamo detto ieri, abbiamo beh, ma lì ci sono delle logiche politiche, mi sembra evidente. Cosa c'è? È giusto che noi denunziamo. Ma non denunciamo niente. La Lega non ha detto che Formigoni deve cadere, ha denunciato alcuni comportamenti di Formigoni. Adesso voglio dire, dobbiamo essere anche corretti su questo, no? Ma l'assessore alla sanità della Regione Lombardia. Oddio, con sta assessore alla sanità, ma sei fissato con sta assessore alla sanità? Ma non lo conosce nessuno, chi se ne frega? Ma lo scandalo in Lombardia è tutto ruota, e ho capito, il leghista è assessore, parlasse, dicesse la sua, benissimo. Ecco. Sonia Alfano, buonasera. Buonasera. Come sta? Benissimo, poi dopo aver sentito certe fesserie. Quali no? No, le nostre sempre, le nostre sempre. No, non mi riesco. Le avete riportate, ma Alfano ha dichiarato che votare il Presidente della Repubblica direttamente eletto dal popolo sarebbe una dose di straordinaria bellezza. Sì, vabbè, è un po' bendoliano. Un po' vendoliana come cosa, no? No, io vorrei che i cittadini italiani potessero votare direttamente i propri parlamentari invece di mettere una cozzaglia di... Vabbè, questo, sa, è il presidenzialismo adesso. Ha scoperto il PDL, ha scoperto il semipresidenzialismo alla francese, e la Lega salva Formigoni, abbiamo già detto, e il Senato dice di no all'arresto del senatore De Gregorio. Grande esempio di democrazia. Sì, però sull'arresto, io, onorevole Alfano, sull'arresto si può anche discutere, cioè, in fin dei conti poi le indagini vanno avanti lo stesso, il senatore De Gregorio si difende. Ma perché ce n'è stato uno che hanno consentito di arrestarne? Vabbè, allora leviamo la casta che si autotutela, che si autoprotegge. A proposito invece di quello che accade all'interno dell'Italia dei Valori, lei è stata cacciata, sì o no? Ho appreso questo dal capogruppo della Camera, Massimo Donati. Cioè è stata cacciata lei? Ha detto che non faccio più parte dell'Italia. Ma ce l'aveva la tessera lei? Cosa? Ce l'aveva la tessera, si iscriveva? No, mai presa tessera, però con una delibera del luglio 2010 ero stata nominata capo dipartimento antimafia del partito, era una delibera dell'ufficio di presidenza. Dunque sostanzialmente faceva parte del partito in maniera ufficiale. Lo statuto prevede che tutti i deputati eletti siano di diritto membri dell'esecutivo nazionale, che comunque è l'organo più importante del partito. Senta, onorevole Alfano, io voglio capire una cosa, in tutto questo Di Pietro, lei è rimasta delusa dall'atteggiamento perché non ha detto una parola, dunque ha avallato questa sua espulsione dall'Italia dei Valori? Non me ne faccio, insomma, mi dispiace, non, appunto, vado avanti per la mia strada. Ha ricevuto una telefonata? Da Di Pietro? No. No, nulla. Nulla. Neanche. Ho ricevuto tante telefonate, tantissime mail, se andate sulle mie pagine di Facebook vi renderete conto di quanto... Però da Di Pietro nulla? È rimasta delusa da Di Pietro? No, non delusa no, ripeto, ognuno per la sua strada, bene così, io lavoro, il mio lavoro è sotto gli occhi di tutti. Però un po' sarà rimasta delusa, perché Di Pietro, lei si è candidata con l'Italia dei Valori, lei si è candidata con l'Italia dei Valori, da indipendente ma nell'Italia dei Valori, poi fa parte... Ma io mi sono candidata perché me l'ha chiesto lui. Appunto, gliel'ha chiesto di vedere. Ovviamente non mi ha fatto piacere, anche perché molti iscritti, molti militanti mi dicono: ah, ma aspettiamo che si esprima Di Pietro. Non mi pare che si è espresso, non ha detto nulla, ne ho preso atto. E dunque si può dire che Di Pietro mi ha espulso? No, non mi ha espulso per forza. Di Pietro, credo che ci sia. Io penso che questa sia stata una decisione presa all'interno dell'ufficio di presidenta, ho capito, ma non è che lì le cose si decidono senza che ci sia il sito di Pietro, diciamo la verità. Guardi, a me avrebbe fatto piacere ricevere peraltro una comunicazione ufficiale prima di apprenderlo dalla stampa, ma voglio dire, manco la quello. No, io l'ho preso dalla stampa. Traffico, torniamo subito. Intanto la moglie di Bruno Vespa è stata eletta come garante della privacy, non solo lei naturalmente, e nel giorno della sfiducia a Formigoni bisogna segnalare che il capogruppo del Partito Democratico che aveva presentato per primo la mozione di sfiducia a Formigoni era in vacanza in Grecia, il signor Gaffuri, una cosa incredibile. Eccoci qui, 18.47, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, con noi una delle persone che è stata sostanzialmente espulsa dall'Italia dei Valori, Sonia Alfano, e non è una, come dire, un deputato, in questo caso eurodeputato qualunque, ma insomma un eurodeputato dell'Italia dei Valori, importante. Un simbolo. Simbolo dell'antimafia, eccetera, eccetera. Ora, possibile che Di Pietro non dica una parola, rivolga non lo so, dica qualcosa a Di Pietro, si appelli direttamente al leader dell'Italia dei Valori, dica qualcosa, Antonio Di Pietro, o no? Gli auguro buon lavoro. Vabbè, ma ho capito. Un insultino, un buffetto. Un buffetto. No, ma perché? Assolutamente no. Io voglio che ognuno, insomma, si assunto le sue responsabilità, voglio che poi ognuno possa continuare a fare il proprio lavoro. Io non avrei avuto questo tipo di atteggiamento. Vabbè, certo, quello mi sembra logico. Ne prendo atto. Non si sarebbe autoespulsa. Ma lei pensa che io mi strappi i capelli? No. Ma lei va con Grillo? No. Io vado? Cioè, va con Grillo? No, io rendo... Guardi, dobbiamo fare una considerazione. Io con Grillo ho cominciato. Sì, ho poi ha avuto anche degli scontri. Poi ha avuto anche degli scontri successivamente. No, io ho cominciato con lui nel 2008, ho fatto la lista civica in Sicilia quando fare la lista civica con Grillo significava essere dei pazzi. Personalmente insieme ai ragazzi ho preso 70.000 voti, sì. ho cominciato, ha condiviso lui la mia candidatura con Antonio Di Pietro. Io lavoro benissimo e tanto con diversi consiglieri regionali del 5 Stelle, con tantissimi militanti, però io vorrei che passasse un principio. Io in questo momento faccio il presidente della Commissione parlamentare europea antimafia e sto dimostrando che è possibile lavorare e portare a casa risultati concreti senza tessere di partiti e senza appartenere alle logiche di partito. Ma nessuno, nessuno lo metteva in dubbio. Senta, però io voglio chiedere una cosa. Ma lei crede di più, in Grillo, o in Di Pietro come, come politico? Credo nei tanti cittadini. No, va bene, d'accordo, non mi dia la risposta scontata, però. Beh, non mi dia la risposta scontata, cioè, crede nei cittadini. Tutti noi che facciamo politica crediamo nei cittadini che ci danno sostegno. Ma mi sente o no? No, non mi sente. Parenzo, cade la linea oggi. Ma come mai? Che ne so. In genere cade a me, non è possibile che cada anche la signora Alfano. No, no, cade anche la signora Alfano. Se vuoi cade anche a me. Cade anche la signora Alfano. Federico da Milano. Buongiorno. Federico, dica. Ah, buonasera. Dunque, io avevo già chiamato ieri sera. Comunque, non si preoccupi, dica, vada dritto. Quanto riguarda l'argomento che avevate sollevato ieri a proposito dei gay... Noi ne parliamo sempre, perché non è ieri, l'altro ieri, quattro giorni fa, cinque giorni fa. Io vedo che della pederastia è un argomento tritato. Quello della, scusi, della pederastia, ma di che parla? Pederastia, sarà un vocabolo nuovo? Ma non credo. E allora che vuole? Non ho capito. Dunque, io desidero soltanto ribadire che sarebbe ora di dargli un taglio a questo argomento squallido. Anni fa, infatti, la pederastia era un argomento negativo. Ma io, scusi Federico, qui non siamo a fare, sono le 18:50, non facciamo un trattato sulla pederastia. Vada al punto, vada al sodo, vada dritto alla questione. Di che vogliamo parlare? Io dico semplicemente che oggi esistono movimenti per il riconoscimento del diritto dei pedofili. Ma non ho capito, ma che diritto dei pedofili? La pederastia e la pedofilia. Ma di che parla la pederastria e la pedofilia? Ma lei è completamente pazzo, ma dica il diritto dei pedofili, Federico, ma di che parla? No, il diritto dei pedofili, lei lo avrà sentito. Ma qua io non ho sentito niente, non c'è nessuno. In Olanda ci sono dei movimenti che vogliono il riconoscimento della pedofilia. E allora? La pedofilia è una derivazione della pederastria. E allora? Non lo sa, allora glielo dico io, se non lo sa. E allora? E allora? Ecco, allora dico, cerchiamo di dare una sferzata una volta tanto. E non esaltare questi personaggi squali. Ma quali personaggi, scusi, quali? I pederasti. Ma che c'entra i pederasti? Non ho capito, i pederasti con la, con la pedofilia. Vabbè, lei fa il solito collegamento tra l'omosessualità e la pedofilia. Federico, si ricoveri, che è meglio. Si ricoveri, che è meglio. Studi, ma da solo. Studi senza ambulanza, vada da solo diretto a Milano, si costituisca direttamente al più vicino ospedale milanese. Arrivo, eccomi qui, sono Federico da Milano, ho parlato poco fa. Ma ci vada lei all'ospedale. Ho lavorato e ho parlato pochi minuti fa con la Zanzara, mi costituisco agli infermieri, alzo le mani, mi costituisco perché sono completamente fuori di testa, perché faccio un collegamento tra omosessuali e pedofili. Così è. Federico, si vuole costituire? È così. In che zona di Milano? In che zona di Milano si trova lei? Parlano i fatti. Sì. In che zona di Milano si trova, Federico? Scusi. Io mi trovo alla periferia estrema di Milano. Alla periferia estrema, sud, nord, est, ovest, dove? Parliamo del sud-ovest. Beh, adesso guardi, le nostre assistenti che hanno raccolto la sua telefonata, purtroppo, le daranno indicazioni sul primo ospedale vicino. Lei si costituisca, tranquillo, costituisca. Ho parlato con la Zanzara. Si costituisca. Mi dà ancora un secondo per concludere. Ma non è in maniera più assoluta. Ma di che concludere cosa? Ma concludere che? C'è bisogno solo di costituirsi. Punto e basta. Al più vicino ospedale, alzi le mani, gli infermieri arrivano, tranquillo, fanno un... Si porta anche la borsa con un cambio molto lungo. Molto lungo. Allora, abbiamo recuperato Sonia Alfano. Eccoci qui. Ma che fine aveva fatto? Non avevo Alfano, scusi. Sono caduta. È caduta? Dove sei? Caduta la linea. Ma si è fatta male? No, io non la linea. Ah, ma non ho capito, è caduta lei o la linea? Non ho capito. È caduta la linea. Ah, la linea. Pensavo che fosse caduta lei, ero preoccupato subito. Scusi, però la gente ci chiede, lei perché è stata cacciata dall'Italia dei Valori? Per la questione di Palermo, perché non ha appoggiato Orlando? Alla fine è questa la questione. No, ma a me sembra una scusa questa. E allora? Personalmente posso dire di non essere mai stata ben vista da alcuni colleghi del partito, perché spesso queste stesse persone mi hanno attaccato sul loro blog, cose che neanche il PDL avrebbe mai detto o fatto. E sicuramente le mie posizioni abbastanza nette su determinati argomenti come Razzi e Scilipoti, Porcino, pure l'Italia dei Valori ha avuto posizioni nette su questo, non è che... Infatti ha aspettato che Razzi e Scilipoti se ne andassero mettendo la porta quando invece avrebbero dovuto essere, insomma, accompagnati alla porta. Senta, quali sono Porcino? gli impresentabili nell'Italia dei Valori oggi, le persone impresentabili? Ma io non credo che adesso serva più fare questo tipo di ragionamento. Beh, come io no? ho fatto una battaglia quando ero dentro al partito e nessuno ha mai, come dire, voluto affrontare questi aspetti. Ci sono due informative di due procure che parlano di alcune frequentazioni pur non di un deputato dell'Italia dei Valori con alcuni esponenti dell''ndrangheta. E chi sarebbe? Chi sarebbe? L'onorevole Porcino. L'onorevole Porcino, vabbè, non è che l'E1 viene mandato via dal partito perché l'onorevole Porcino rimane dentro l'Italia dei Valori, nonostante quello che dice lei, cioè ci saranno altre ragioni. No, io non lo so, lo dovete chiedere a loro. Io ho fatto tutta una serie di valutazioni, ho detto Porcino non è indagato, però sicuramente questi suoi incontri, casuali, non casuali, a me questo non sono io che devo dire se erano casuali o meno, ci sono due informative che ne parlano abbastanza chiaramente, ma io non lo considero, come dire, un elemento da poco, soprattutto se poi quando queste cose accadono nella Lega, perché Di Pietro io sono non la prima ad alzare la voce. Di Pietro è intervenuto chiedendo a Porcino di restare nel partito. Io avevo chiesto che Dico, perché non è intervenuto contro Porcino secondo lei? Evidentemente do più fastidio io, sono più problematica io che certi personaggi. Che cosa le devo dire? Evidentemente una persona come me non cioè, è Porcino gradita. Ricatta Di Pietro, no? No, guardi, questo che ne so manco io, che ne so io. Zanzara Party di questa sera 19:15 in diretta da Roma. David Parenzo qui negli studi di Milano. Giuseppe Cruciani, che stai facendo? Stai mangiando? Buonasera, sei al cesso? Che stai facendo? Buonasera a lei e ai radioascoltatori, tanti cari saluti dall'associazione Vedrò. Ma chi se ne frega? Cioè non me ne frega nulla, perché insisti su questa cosa? Tanti cari saluti, potresti essere ovunque. Salutano tutti, cioè, hanno detto dov'è Cruciani, dico Cruciani al lavoro e a Milano. Certo, Monica, tu invece Nardi, ma ti manda un bacio. Tu sei lì invece a pasteggiare, soliti aperitivi. Sono qui a lavorare e a ragionare sul futuro della televisione. Sì, sul futuro della televisione. Sì. Vabbè. Ma perché sei? Ma non capisco. Va bene, andiamo a sentire che è meglio. Sì, think tank. Andiamo a sentire il TG3 che è meglio. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Dura lettera di Schifani sugli errori di Berlusconi del PDL. Il presidente del Senato chiede all'ex premier Operazione Verità di una linea di responsabilità. Sulla crisi scontro USA-Europa, Obama ha subito un piano, Draghi le responsabilità anche di altri paesi. Banche spagnole, Bruxelles cerca una soluzione. Allarme Confindustria, l'Italia arretra nell'economia mondiale, imprese a rischio e sopravvivenza. Vola la cassa integrazione sul PIL effetto sisma. Eletti i componenti di Agicom e Autorità per la Privacy, sui nomi accordo PD, PDL, UDC, FLI, Italia dei Valori e Radicali protesta in una spartizione. Alfano avanti con Monti per le riforme, fini sì al semipresidenzialismo, PD urgente, la legge elettorale, Lombardia no alla fiducia Formigoni. Paura anche se nessun ferito per una nuova scossa nel Ravennate, si è trattato di un evento sismico nuovo, Napolitano domani tra gli sfollati. Forse vicino una svolta nell'attentato di Brindisi dove morì Melissa Manganelli, né mafia né anarchici, accertamenti su una persona sospetta. Siamo qui, allora, Sonia Alfano, europarlamentare Italia dei Valori, ex Italia dei Valori. adesso non si sa che cosa, cioè è rimasta da sola. Sono indipendente. Indipendente. Non sono rimasta da sola, ma lei sa quanti cittadini. No, ma lo so, ma non appartiene a un gruppo, sto dicendo. Anzi, le voglio ringraziare tutte le persone, vabbè, le istituzioni che in questi giorni vabbè sono stati vicini. Senta, io vorrei capire una cosa. Orlando, chi l'ha votato a Palermo? Guardi, io no. Lei no, e su questo non c'è dubbio. Ci sono delle dichiarazioni di voto pubbliche. Sì. Franco Cascio, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, sì, PDL, ha dichiarato il suo voto per Orlando. Non è un delitto, come dire. No, per carità, però poi lui non deve, siccome l'ha fatto anche l'onorevole Musotto quando era ancora capogruppo, sì, sempre all'asse per l'MPA, sì, siccome Orlando aveva accusato Ferrandelli di essere il candidato del terzo polo, di avere voti, sì, in ciuscio col PDL. Poi abbiamo proprio le dichiarazioni dei deputati, dei capigruppo che dicono noi votiamo e voteremo per Orlando. Insomma, chi ha votato per Orlando? La vecchia nomenclatura ha votato tutta per Orlando? Cosa? La vecchia nomenclatura siciliana del PDL eccetera ha votato tutta per Orlando? Guardi, io sono abituata a leggere i numeri, perché la politica è come il calcio, contano i numeri. Sì. Allora, la coalizione del PDL ha totalizzato il 26,5%. Il candidato del PDL ha preso il 10,3%. Il resto chi l'ha preso? Ferrandelli o l'ha preso Orlando? E che ne so, me lo dica lei. Beh, l'ha preso Orlando. Beh, sono i voti. Lei come mai? Mi spieghi lei come, sì, mai? Se la faccio io la domanda. Alle primarie del 4 marzo, Orlando, che sosteneva la Borsellino, quindi questi due nomi insieme, hanno totalizzato non più di 9.600 voti. Un mese e mezzo dopo Orlando prende 105.000 voti. Ma quella è un'altra cosa, è un'altra elezione, è un'altra competizione. No, no, è la stessa identica cosa. Fermo restando, mi consenta di semplicemente di ribadire la mia stima per Rita Borsellino. Punto. Vabbè, sento una cosa, onorevole Alfano, ma dunque si può dire che Orlando ha preso i voti anche dalla mafia? No, questo non mi permetterei mai di dirlo, ma ha preso i voti dall'MPA, ha preso i voti dall'UDC, ha preso i voti dal PDL, tutto quello che insomma lui voti dei cittadini, voti dei cittadini, non voti del PDL. No, anche di strutture, perché mi pare che il presidente dell'Assemblea regionale sia a capo di una struttura politica. Senta, ma intorno a Di Pietro c'è un cerchio magico anche lì? Non lo so, non glielo saprei dire, io non ho mai frequentato i cerchi magici, non mi piace frequentarli, io mi piace stare in mezzo alla gente. Ma è tutto limpido nel finanziamento pubblico, nella gestione del finanziamento pubblico. Guardi, le posso dire che quando Antonio Di Pietro mi ha chiesto di candidarmi, io gli dissi molto chiaramente che non avevo soldi da mettere a disposizione, perché li avevo già messi a disposizione con Grillo. Lui disse sia a me che a Di Magistris che a Vulpio che avrebbe stanziato per noi una cifra che poi corrisposta a 70.000 euro e che è stata tutta rendicontata da noi ed è stata D'accordo, ma com'è la gestione del finanziamento pubblico dell'Italia dei Valori? Limpida, troppo accentrata, opaca, oscura? Guardi, io le posso solo dire che per quanto mi riguarda tutti gli eventi che ho organizzato e cui ha partecipato Antonio Di Pietro erano stati organizzati e affrontati economicamente da me. Il partito non ha mai messo un centesimo in queste cose. No, appunto, la domanda però è, la domanda conseguente è questa. E siccome arrivano all'Italia dei Valori un sacco di soldi, giustamente dal finanziamento pubblico perché è legittimo, questi soldi sono gestiti in maniera limpida o opaca, secondo lei? Questo io non glielo so dire, perché ripeto, non ho mai avuto accesso a queste carte. Mi auguro per loro che siano gestiti in maniera limpida. Mi auguro che vuol loro dire? Che lo spero, per non dare un'ulteriore delusione ai cittadini. Ma lo credi o no? Ma io credo di sì. Credo e mi auguro di sì, perché altrimenti significa che in questi anni non mi sono accorta di nulla. Che partito è l'Italia dei Valori? Cosa? Che partito è l'Italia dei Valori? Ma forse è un partito che bada poco ai giovani e che quando deve poi pensare alle candidature, insomma, con me, con De Magistris, forse ha fatto un'eccezione, però quando poi bisogna andare alle amministrative, alle provinciali, anziché pensare ai ragazzi, ai giovani, imbarca dei dipartimenti. Chi imbarca? Imbarca tutta una serie di personaggi che provengono da vari partiti. Ci sono molti deputati dell'Italia dei Valori che provengono dal PDL, che provengono dalla Lega. Riciclati. Provengono dall'Udeur, in Sicilia provengono dall'area manniniana, provengono addirittura dall'area craxiana. Ma si può dire un partito di riciclati? Cosa? Un partito soprattutto di riciclati, si può dire? Ma guardi, per me non ha senso e non è neanche dal punto di vista etico corretto parlarne male adesso, perché io ne sono fuoriuscita. Sì. Però posso dirle quello che ho sempre detto, che comunque questo partito ha veramente imbarcato e ha messo accanto tanta gente come me, come Cavalli, che se n'è andato pure lui, e poi invece come De Magistris, e accanto gente come Porfiglia. o Comerazzi e come Scilipoti, o De Gregorio, o Porcino, era nel partito. Beh, o Porcino. Grazie, titoli del TG3. Grazie a voi. L'ho mandati? Veramente l'ho mandati? Ah sì, è vero, non me ne sono accorto. Vabbè, stasera sono sbadato. Roberto da Bari. Roberto? Sì, dica. Buonasera, niente, volevo parlare del terremoto in Emilia. Sì, lei deve anche abbassare la radio però. Sì, sì, sì, tutti quanti ne parlano in maniera del tipo, io sono un ingegnere quindi mi permettete di fare un po' una digressione un po' tecnica. Tutti quanti parlano, diciamo, in Emilia è successo il terremoto, nessuno se lo aspettava. Stiamo parlando di una terra che è anche stato gas a tutto spiano. Sì, ancora con questa storia dell'estrazione del gas. Sì, e ha avuto una subsidenza di 8 metri, l'acqua alta a Venezia, sì, non è che si è alzata l'acqua, si è abbassato il terreno. Sì. Con questo voglio dire che ci sono dei fenomeni sismici che sono abbastanza evidenti da 70 in Emilia, per cui la mancata applicazione normativa è una mancata applicazione normativa che ricade in capo a tutti i comuni che hanno voluto sottrarsi alla normativa antisismica per non applicarla. Va bene, grazie, andiamo sempre a Bari, Vito. Vito, eccoci, dica. Pronto, Cruciani. Salve. Senta, no, niente, io voglio replicare sia lì che a Travaglio per quanto riguarda l'aiuto dei carcerati per i terremotati. Finalmente una cosa buona che viene da un ministro è che tutti sono contrari. Non è che i carcerati devono costruire le case, però ci sono molti lavori, tipo pulizia delle macerie, eccetera, eccetera, trasporto di materiali, che possono farlo benissimo. Non ci vuole una laurea. Non c'è bisogno, non c'è bisogno dei detenuti per queste robe qui. È roba medievale. Ma di che parliamo? Dei lavori forzati con le catene? Ma no, di che parliamo? No. Ma di che parliamo? Ma perché c'è che necessità c'è di un'organizzazione di questo tipo? La sicurezza, scegliere chi può uscire dal carcere, chi non può uscire dal carcere. No, perché non così? Ci convinciamo che è una boiata questa roba qui? Una boiata inapplicabile. È una boiata. Invece molti comuni spendono fior di quattrini per fare la bonifica delle periferie, ma certo, delle spiagge. Ma che c'entra? Ma perché? Perché coinvolgere i detenuti? Ma io non lo dico perché non devono uscire dal carcere, escono secondo le norme di legge quando ci sono quando la legge lo consente, semilibertà, lavori all'esterno, già ci sono queste norme. Cosa c'entra la questione del terremoto? Non c'è nessun bisogno, peraltro, non c'è bisogno. Ma chi l'ha detto che non c'è bisogno? Ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Se l'hanno detto, evidentemente c'è bisogno di forze, vabbè, di persone. Allora organizza tu questa cosa, ma da dove non sei io, bravo. Ma se chi l'ha detto, evidentemente in quel territorio può aver bisogno di forze. Allora, di vogliamo scommettere che non si farà? Ma questo è un altro discorso. No, vogliamo però scommettere che non si farà perché è una cosa buttata lì che un ministro tecnico non dovrebbe dire? Ma perché un ministro tecnico non deve dire? Perché un ministro tecnico si perché il ministro della giustizia non deve dire nulla riguardo alla giustizia. Allora, ma che non è la giustizia questo qua, questo non è come la giustizia. No? Attiene all'amministrazione, perché certo, va attiene bene anche all'amministrazione. Va bene, ma se pensi che sia applicabile, che ti devo dire? Tommaso, ma provincia di Monza. Ma tutto il mondo! Ma quando mai? Tommaso, provincia di Monza. Buonasera, anch'io sono d'accordo con l'affermazione del ministro Severino, perché secondo me è giusto. La protezione civile sta cercando in tutti i modi fondi e aiuti, perché non riescono a gestire. Ma fondi è una cosa, fondi è una cosa. Sì, ma visto che cercano fondi, ovviamente cercheranno anche persone. Io sono d'accordo, non è vero, con no, lei, sono non d'accordo risulta con lei che i detenuti non sono delle persone qualificate. Ma non è tanto quello il punto. Io ho detto che servono. C'è da rimuovere macerie, c'è da ma non macerie, è così. È un ma servizio non socialmente utile, secondo me. Va bene, allora siete se pensate che si possa fare, io ve lo io lascio dire, si libertà, fare. Si possono io dire tutte le stronzate possibili, fare. Va bene, d'accordo, pigliamo i carcerati e portiamoli a rimuovere le macerie. Vabbè, se pensate che si possa fare, socialmente utile. Se pensate che si possa fare e se pensate di trattare i carcerati come carne da macello, con le catene ai piedi, fate voi. E come li controlli, scusa? Come controlli? Non devi controllarli. Intanto ci sono già, come la legislazione spiega, detenuti che escono e ma quello che c'entra? Ma quello cosa c'entra? Quelli sono i detenuti che escono perché vanno a fare dei lavori in alcune comunità, eccetera, eccetera. cooperative, così come alcune cooperative gestiscono lavori fuori dal carcere, alcune cooperative possono gestire i lavori di ricostruzione per il terremoto. Forse non è... Ma non mi pare, ma forse non ci siamo capiti, cioè non mi pare una cosa così folle dire che alcune cooperative. No, ma non è questo che è stato detto. Ma non è vero, non è stato. Ma è ovvio che è questo. Ma... Va bene, è questo, hai interpretato due le parole del ministro Severino. Quando dice l'impiego di detenuti fuori dal carcere in aiuto al ai terremotati. Ma questo lo dice. Ma... Lo dice il ministro Severino. Sì, allora dice coinvolgere i detenuti fuori dal carcere. È perfetto. Una boiata, perché non si può fare. Ma no, già oggi ci sono i detenuti che escono, e tu dici escono e poi non tornano più. Non è vero, perché ci sono le cooperative che si prendono carico di gestire. Ma lei non si riferiva a quelli che già escono, si riferiva alle persone che sono in carcere. Appunto, allora se si può, se già si fa per alcune categorie, perché non si può pensare di farlo perché? Con le... Perché ci sono delle persone che non hanno diritto, perché non hanno diritto ad uscire secondo le norme di legge e che dunque, non, e che dunque devono essere, se si organizzasse questa cosa, devono essere, come dire, sorvegliate. Non è così, e tutta questa apparecchiatura di sorveglianza no. È una cosa che non ha senso ma in questo contesto. Ma se le prendono carico le cooperative che gestiscono i lavori bene, fuori dal carcere, solitamente è così. Va bene. Le cooperative. Va bene, ma non è così, ma non è come dici tu. Seminate il terrore, ma non c'è. I leghisti. Ma che leghisti? Seminate il terrore dicendo che escono tutti dal carcere. State seminando il terrore. Poi naturalmente qui alla Zanzara si fa il tifo perché prima o poi l'impossibile diventi realtà, cioè perché Oscar Giannino sia portato no? al soglio pontificio, giusto Parenzo? Al soglio pontificio, al governo con ruoli di responsabilità. Giannino Premier! Plenipotenziario, abolire tutti i ministri, solo lui. No, alla guida. Vabbè, questo è esagerato. Tutto abolito. Lo scandalo quante volte maggiore sono gli 840 miliardi di spesa pubblica. Quello è lo scandalo che io voglio vedere affrontato. Li voglio vedere affrontati entrambi. Sono stufo di vedere imprenditori additati come delinquenti, per Dio. Ancora, ancora, ancora. Mi ritrovo sistematicamente persone che dicono: vergognati perché tu difendi gli evasori. Io non difendo gli evasori. Io non mi posso identificare in uno Stato che dice che gli devo il 30% di quello che mi deve per andare di fronte a un giudice che non è indipendente. Questo è il problema della credibilità, dell'incoerenza di una classe politica che va mandata a casa. Va bene, questo è il punto, a casa. E sull'erba molto spesso qui si la propensione alla spesa pubblica è deficit elevata, questa è la lezione del secolo scorso e io il tossicodipendente Stato lo voglio fermare, a San Patrignano lo voglio mandare, è chiaro? Viva Muccioli, li chiudeva anche nelle gabbie quando era il caso e rischiava i processi per questo che affrontava, lo Stato non avrebbe bisogno di niente di meno. Sappiamo chi dobbiamo ringraziare, politiche di entrambe le coalizioni che hanno mangiato 7 punti di PIL l'anno di minori interessi sul debito pubblico, il dividendo dell'euro, e questo non lo dice Giannino perché fa parte di un partito, lo dice Giannino incazzato come contribuente, come lavoratore autonomo. Prossimamente qui Radio 24, Giannino. Bravo. Collection, Giannino for President. Bravo. Lorenzo da Genova, 800 24 00 24, prossimamente la Giannino Collection. Dopo la Borghezio Collection mi sembra. Beh, adesso l'accostamento qualità. L'accostamento non piacerà a Giannino, però insomma va bene. Mi sembra un salto di qualità nella produzione culturale della Zanzara. Sì, questo sicuramente. Tutto qua. Dove andiamo, Lorenzo? Sì. Sì, buonasera. Allora? Anch'io sono d'accordo, Giannino Collection. Io volevo fare un commento su questo, sulla silenzio della stampa. E arrivano già messaggi, lo voterei subito, Giannino Premier, sono d'accordissimo, Giannino Premier, anch'io sono con Giannino, Filippo 40 anni Milano, Serena e altri ancora, prossimamente Giannino Collection qui su Radio 24, avanti tutta. Sono tutti con noi. Come con noi? Con lui. Lorenzo, allora? Questo silenzio della stampa sui vertici dei partiti nei quali ci sono state le ruberie, ammanchi. Vertici dei partiti quali, scusi? Quali vertici dei partiti? La Lega, la Margherita. Ma non c'è affatto silenzio, quale silenzio? Io non ho sentito. Ma è mesi che si parla del finanziamento pubblico della Margherita, della ma Lega. Ma non di Bossi, solo del suo figlio. Ma non è vero, si parla sempre di Bossi, ma di che sta parlando? Che dice? Ma che ha letto? Che sente? Che ascolta? Io dico che con Berlusconi si è sempre detto non potevano sapere. E secondo voi Bossi poteva non sapere? Rutelli poteva non sapere? Di Pietro? Guardi, questo è un altro sapere. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Sì, va bene, questo è un altro discorso. Comunque lo si dice anche di Rutelli in realtà, lo si dice anche di Bossi che non poteva non sapere, a parte che Bossi è indagato, insomma. Però sono tutti lì. Vabbè, tutti lì, ma che vuol dire? Cioè, tutti lì. Non dovrebbero essere tutti lì. Ma non è, è molto azzoppato Bossi, non è vero che è lì. C'è uno scandalo che ha azzoppato la leadership della Lega, per cui sono tutti lì, che vuol dire? Che è ancora deputato? Che cosa? Vuol dire che probabilmente alle prossime elezioni noi troveremo ancora gli stessi personaggi. Mi sembra molto difficile, almeno quello che è Bossi mi sembra molto difficile, però non è detto. Può darsi pure che negli accordi. Negli accordi con. Negli accordi con, sì, ho capito. Negli accordi con Maroni può darsi che ci sia anche la riconferma di Bossi. Ma va bene. Quello che però secondo me è più singolare è che non c'era levata di scudi dalla stampa, non ci sono trasmissioni televisive. Ma non è vero, ma è mesi che si parla di questo, ma di che parla? Sulle mignotte di Berlusconi che erano soldi suoi. Ma lei è completamente fuori ma lei non so che cosa guarda e che cosa ascolta. Si parla da mesi delle ruberie nella Lega, dei fondi anche della Margherita, quando se ne parla, lì è una questione un po' diversa. Se ne parla continuamente, Ma delle seconde. Ma che significa delle seconde linee? Ma non è vero, non è vero che si parla delle seconde linee, si parla delle primissime linee nella Lega, Nella Lega. Io ho visto un'ultima trasmissione in cui Bossi era seduto a fianco di Maroni. Ma e che vuol dire? Cosa c'entra? Va bene, c'entra. Che non dovrebbe esserci. Non dovrebbe esserci, ma questa qua è una sua valutazione, ci può stare, secondo lei la Lega dovrebbe liberarsi di Bossi. Grazie, Fabio da Milano. Sì, buonasera signor Cruciani, ascolti, io ascolto il programma tutte le sere perché mi piace, perché mi rilasso, mi diverto dopo il lavoro, una giornata di abbastanza stancante. Ascolti, io ho 32 anni, chiamo da Milano e sono omosessuale, allora faccio una vita assolutamente normalissima a dispetto di quanto dicono certi suoi ospiti che dicono, mi permette il termine, stupidate ogni volta che intervengono. Io, come dire, lavoro, ho degli amici, ho un compagno, abbiamo anche prospettive di un futuro assieme. Io però francamente non posso, cioè ogni volta che sento telefonate, tipo quella di quella persona di Milano che ha chiamato prima, accostando gli omosessuali ai pedofili. E che dobbiamo fare? No, io non ho capito, no, per carità, lei non può fare niente, purtroppo dà voce a questi elementi e di conseguenza, insomma, questo vabbè, non è colpa sua, alla fine chiamano, dicono quello che credono. Quello che voglio dire però è che ogni piccolo sforzo che io, ad esempio, come persona o altri miei amici facciamo per, non dico per, come dire, per dire alla gente che non siamo anormali, ma che siamo come tutti, come dire, poi vengono vanificati in maniera assolutamente drammatica da non solo persone anonime, magari ascoltatori come me che ha chiamato prima, ma anche da persone magari più importanti che hanno anche una risonanza, diciamo, a livello nazionale e dicono fregnaccia, ecco, mi permetta. Guardi, noi non facciamo il bilancino su questa cosa perché le nostre idee a riguardo sono talmente chiare che non c'è bisogno di fare nessun bilancino. Ma io ho capito benissimo che le vostre idee sono chiarissime, infatti vi ascolto, a lei il programma lo ascolto da anni e vi ascolto tutti i giorni, quindi sono perfettamente a conoscenza di quali siano le vostre idee, anzi come dire, è anche un impegno lodevole. Dunque? Se mi permette il termine. Ho capito, però tutti questi sforzi che si fanno per dire che io personalmente non sono una normale. No, vabbè, ma questo si è chiarissimo, a noi è chiarissimo. Tanto chiaro non è, secondo me, perché se continuano a dire stronzate. Se non è tanto chiaro, faremo in modo che diventi più chiaro. Ringraziare la zanzara per questo, perché ha la capacità di tirar fuori la pancia e il pensiero di alcuni mostri e sapere che ci sono questi personaggi, alcuni siedono nelle istituzioni, lei dovrebbe dire bravi, avanti così, perché smascherate questa vergogna omofobica, lei dovrebbe telefonare per ringraziarci e noi diciamo andremo avanti sempre. Così, Fabio, grazie. Gianni da Lecco. Questo è il punto. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo dissentire sul discorso dei carcerati, mi ha un po' stupito perché probabilmente non conoscete i carcerati, perché il discorso è il far lavorare il carcerato, bisogna tenere presente, prima un recupero della persona, si può recuperare in mille modi la persona, eh? Cioè, sì, ma non sono mica deficienti, ci sono dei tecnici in gambissimo che anche fra i carcerati. Certo. Sì, ma diamine, ho capito, ma non si capisce l'utilità di questa cosa. Primo, è inapplicabile e, come mi suggerisce un'ascoltatrice, è una cosa che non verrà fatta mai. Per cui è una cosa buttata lì che da parte di un ministro tecnico, insomma, se ne poteva tranquillamente fare a meno. Ma conosco delle realtà di carcerati che lavorano e fanno delle cose bellissime. Guardi, il ministro Severino ha detto una boiata, appunto. Ha detto una boiata, ma basta mettersi d'accordo su questo. Ha detto una boiata. I carcerati nella zona del terremoto non si possono utilizzare perché ci sono mille problemi, la protezione, mandarli lì, chi far uscire, chi tenere dentro. È impossibile, cioè è una cosa impossibile. Ma perché? Ma vedi che allora non veramente il fatto che tu non capisca. Vabbè. Non mi stupisce. Va bene, invece secondo te è applicabile. Certo. Abbiamo con noi Giuliano Ferrara, buonasera. Buonasera, come va? Bene, per la prima volta la Zanzara, che onore qui. Grazie, che siete onore. Molto gentili, sono un vostro sostenitore, ma so che mi farete dei trabocchetti orrendi. Ma quali trabocchetti orrendi? Nessun trabocchetto. Intanto dobbiamo dire una cosa, che c'è una lettera di Schifani che verrà pubblicata domani sul Foglio, che potete già trovare sul foglio.it, che sostanzialmente invita Berlusconi a fare un'operazione verità. Cioè a raccontare le cose come stanno, cioè abbiamo fallito, questo dice in sostanza Schifani. Non giocare con il caos, che è quello che voi fate tutti i giorni mirabilmente. Assolutamente. Voi siete giornalisti, mentre Berlusconi dovrebbe essere un uomo di Stato. Non giocare con il caos, cioè non fare il cretino. Hai voluto Monti insieme con Bersani, siete in una maggioranza tripartita, costruisci delle alleanze sensate e fai politica, non è che devi metterti a fare il grillo di seconda scelta. Ma questa qua ed è una cosa molto coraggiosa, perché Schifani è il presidente del Senato e insomma si tira fuori da 4 anni di silenzi istituzionali con una scelta dura, perché poi dice fatti l'autocritica, hai sbagliato confini. Io ho un dubbio, insomma, però ho un dubbio, Giuliano, lo sai qual è? È che la cosa l'hai scritta tu, secondo me. No, assolutamente no, questa è assolutamente una sciocchezza, è un regalo che il presidente. Però coincide con quello che pensi, trasmettendogli oggi pomeriggio un testo molto molto interessante. No, ma naturalmente scherzo, però coincide con quello che pensi tu, tienimi da conto Monti, quella cosa straordinaria. Adesso dico, diciamo, io non sono mai stato un uomo di maggioranza, non è detto che le opinioni degli italiani al 51% debbano coincidere con le mie, un italiano, il quale fa il presidente del Senato, e questo diciamo sostiene la, come per tutti il suo diritto di parola, la pensi un po' come me, non è male. No, vabbè, questo figuriamoci, eccetera. No, la mia il problema è Berlusconi che... vuole fare grillo o sono altri vicino a lui che lo invitano a fare grillo, tipo la Santanchè? Ma no, ma niente, Berlusconi non sa che fare. Tutte le strade. Secondo me leggerà con una certa... con un certo piacere anche il testo di Schifani, che è la negazione, diciamo, di tutte le altre linee che è fatto così, manda avanti tutti i cavalli, li fa correre come un pazzo e finché non è sicuro non prende una decisione. Però tempus fugit, posso dirla così? Come no? Il tempo scorre e appunto si sta andando a una situazione assurda, la Zanzara lo deve denunciare tutti i giorni. E qual è? E come vogliono fare di nuovo una cosa per cui si vota, noi andiamo a votare, tutti illusi che ci sarà la legittimazione dal basso di un governo degli elettori e non più dei tecnici, che ci solleverà dal gravame delle tasse, ci restituirà lavoro, ridarà potere ai sindacati in modo che possano fare le loro splendide battaglie contro i giovani e contro le donne, eccetera, eccetera. E che questa soluzione sarà una soluzione sulla scia di Hollande, figuriamoci un po', che rimetterà in sesto l'Italia. È una castronata, è una delle più grandi balle che si potessero immaginare. Noi sappiamo benissimo che se si va alle elezioni in uno scontro tra populismi berlusconiani, al solito, e foto di Vasso, cioè Bersani insieme con Di Pietro, Bersani Ventola, contro Santanchè, diciamo, e la lobby di Repubblica, ecco, Berlusconi magari anche con Daniela Santanchè, esatto. Ma se si va a questo scontro ne esce fuori un governo cagata. Ho capito, però cagata, tu prima hai detto boiata, sono termini. Ma non hai scusami, non eri tu quello che qualche mese fa diceva io ero lì, certo, e diceva certo, perché quando ho visto bisogna che, votare. Ma certo, io dicevo che bisognava votare sotto la neve, cioè che non bisognava rompere la spirale, sì, subito, della legittimazione politica, sì, di chi governa. Subito, sì. E quello forse potrebbe avere avuto un senso, perché se vinceva Bersani, il governo della sinistra era il governo, diciamo, di alternativa a Berlusconi, che nasceva nel fuoco della lotta politica, perché Berlusconi era andato in crisi. Se avesse vinto Berlusconi, se la prendevano in saccoccia, e Berlusconi, con tutte le foto di Casoria, con tutti i pasticci della magistratura, eccetera, però sopravviveva a se stesso. Ed erano due elementi, diciamo. Sì. Però è stata fatta un'altra scelta. Io sono un realista. Una volta che è stata fatta un'altra scelta, esaminiamola. Cosa fanno? Io, mentre scrivevo contro Monti, dicevo: non ho niente però personalmente contro di lui, e valuteremo quello che farà. Sì. Ha fatto delle cose che si dovevano fare da vent'anni. Ho capito, però adesso è sei mesi, sono quattro mesi che non succede niente. Bravo, e sto scrivendo l'editoriale domani proprio su questo. Appunto, il dramma è che adesso qualcuno come Schifani si accorge che stiamo andando verso il baratro, però è un po' tardi, perché il governo è entrato nella impasse. Posso essere impasse. Ieri Luttuak, il mitico professor Luttuak a Ballarò, ha detto una cosa molto semplice, una verità sacrosanta: un ministro, un primo ministro tecnico, se ne deve fottere di tutte, deve essere cattivo, cattivo. Ma come io lo dico tutti i giorni, le relazioni, loro dovevano procedere per consigli dei ministri arcisti. Bravo, coi carabinieri accanto, coi carabinieri a fianco, così. Vabbè, i carabinieri. Vabbè, per dire, così, è una metafora. Sì, sì. Per decreto, per decreto, solo che non ha, ma non sanno che fare. A discutere con Camusso, Bonanni, lo so, Quinzi, Marcegaglia, eccetera, sono piano piano diventati un governo come gli altri. Ma con Quinzi, non decidono più. Con Quinzi ancora non hanno deciso, non hanno discusso nulla ancora. Vabbè, perché tu sei per Quinzi. No, io veramente non so per nessuno. Questo è Parenzo che dice che io ho fatto la campagna del Bomba 6, ma è una stronzata, Parenzo. No, secondo me sei per Quinzi. Io per Quinzi, ma io ti sospetto fortemente squinziano. Assolutamente no, ti posso dire che io me ne sono fottuto, tu lo sai benissimo. Giuseppe, siamo vecchi di queste bande, siamo topi del giornalismo, figure se ti sospetto di essere squinzio. No, squinzio forse un po' sì, squinzio, però squinzio. No, hai sempre erano. Sì, lo so, ho capito. Che io voi? Sono voglio sentire stato. Parenzo mi fa delirare quando fa la zanzara. Io sono sempre stato a favore dell'editore Squinzi, che tra l'altro saluto. Ma tu sei un lecchino, ma tu sei un servo, maledetto. Sostenuto ogni giorno nelle pure, siamo tutti con Squinzi. Bomba 6. Squinzi, avanti, ma noi ti abbiamo già salvato, abbiamo già fatto l'accordo con Squinzi, rimarrai alla guida della trasmissione, Giuseppe. Bene, questo è importante. Vabbè, ma io voglio capire una cosa, se invece alla fine Fassina qualche ragione ce l'ha, se qui bisogna galleggiare per sei mesi, per stare con un governo che governicchia, che non fa nulla, che tratta a destra e a manca per tirare fuori delle robe inutili, che non servono a niente, allora è meglio votare. Sì, c'ha qualche ragione, nel senso che la situazione di drammatica crisi e anche di stallo del governo, che non riesce più a produrre una quantità necessaria di, e naturalmente che vive ormai solo di prestigio europeo e di mediazioni tra la Merkel e Hollande, effettivamente mette i partiti in una situazione imbarazzante, quelli di destra e anche quelli di sinistra. Quindi lui ha ragione, però un politico non può avere ragione solo nel dire le cose vanno male, rompiamo tutto. Deve dire che cosa mette a quel posto, chiedeteglielo a Fassina. Che mette? Lui mette, lavoro, vendola. Ma lui vuole la foto di Vasto allargata. Lui vuole la foto di Vasto allargata alla lista Repubblica Saviano. Anzi, la lista Repubblica Saviano non la vuole. Ma dice sulla lista Repubblica non lo so tanto, perché i giovani leoni del PD vogliono guidare in proprio il governo e la politica. Sì, del PD. Sono dei tipi piuttosto duri. Del PD, sì, no, del PDL, del PD. Ma tu come la vedi? Alla fine si fa sta lista Saviano Repubblica? PD-L. Sì, PD-L, come dice Travaglio. Ma la fanno sta lista, secondo te, alla fine? La lista Saviano, sì, come la chiami te? Come la chiami? Non lo so, guarda, adesso fanno la Repubblica delle Idee, cioè una serie di eventi che Baudelaire chiamava di fraternité, di prostituzione fraternitaire. Cioè la gente si recherà a questi concerti sentendosi buona, poi andrà alle conferenze culturali, poi sentirà tutti questi che sono passati nelle varie università del pensiero dominante, poi tutti i puritani, poi tutti i moralismi, eccetera. Saranno in tantissimi, sarà un enorme successo e sarà una manifestazione, diciamo, di testimonianza di società civile. Perché prostituzione? Dici prostituzione? La chiamava Baudelaire, così. L'ho detto io. Prostituzione fraternitaire. Cioè Baudelaire diceva, aveva ragione Pascal, i guai dell'uomo derivano dal fatto che non sa stare solo nella propria stanza. E poi aggiungeva: oggi la gente è affollée, cioè si bea del fatto di essere folla. Sì. Guareschi meno poetico di Baudelaire, diceva: sì, porta il cervello all'ammasso, come le merci. Dunque, no? Quelli che vanno alla festa di Repubblica portano il cervello all'ammasso. Se ti rispondo di sì, è una risposta tipica della zanzara. Esatto. La mia risposta è sì. Senti, ma tu Radio Londra lo riprendi a settembre? Radio Londra lo riprendo il 17 settembre. Ma la sera? Mi ha comunicato l'editore. La sera oppure sempre la sera? No, la sera. No, a 1:30 ho da fare. Che ne so, il fatto volevano così, volevano che ti trasferissi a 1:30. Il fatto voleva che andassi alle 4 del mattino dalla prima puntata, però adesso non è che si può fare tutto quello che vuole, dovresti... alcune cose sì, ma non tutto. Come ebbe a suggerirci il grande Carlo Freccero, il maestro Freccero, tu dovresti farlo su Rai 3 Radio Londra. Forse questa non era una brutta idea da parte del signor Freccero, farlo no, su non Rai è male, per scompaginare tutto. Andare su Rai 3, appunto. Prossimo anche domani, però io faccio quello che mi dicono i miei editori. Vedete, io ho questa idea che i giornalisti sono indipendenti, nel senso che devono dire più o meno quello che gli salta in testa, sì, e magari informarsi prima di parlare, però sono dipendenti, cioè loro hanno un contratto di lavoro, anche se autonomo, però coordinato e continuativo, e vengono pagati, nel mio caso anche abbastanza, perché ho 60 anni e perché insomma sono un personaggio noto ai telespettatori. Quanto te pagano alla fine? Non mi ricordo. Mi pagano 3.000 euro a puntata, non me lo ricordo nemmeno io. Buono. Ora devo fare l'unico, verificherò se mi hanno pagato. Vabbè, quella la Rai se ce l'ha. Non si sa mai quei tempi che corrono. Vabbè, la Rai. Comunque i giornalisti però sono dipendenti, quindi hanno degli editori. Sì. La libertà di stampa non è la libertà di dire quattro fregnacce dei giornalisti, la libertà degli editori di costruire uno spazio vero nella società e di confliggere tra loro. Ma c'è però il giovedì questa casella vuota, non ti piacerebbe riempirla? No. No, io queste cose, diciamo, per cui uno si mette lì e fa il guru delle coscienze, l'anticapitalista con Blandini, oppure l'arbitro del governo con gli scontri tra Tremonti e Casini, eccetera, no, sono cose belle che ogni tanto guardo anch'io perché non sono così snob, però insomma non mi piace più farle. Invece a Rai 3 sì, io vedrei bene. Preferisco pontificare. Io lo vedrei bene, Giuliano Ferrà a Rai 3, bellissimo. A Rai 3, lì sì, a Rai 3 cosa come stupenda. Spalla di Floris in Ballarò, vabbè, anche questa la posso accettare. No, la spalla, non la spalla. Cosa... la spalla, io ho fatto la spalla dell'Armeni, della Palombelli. Con la Bianca Berlinguer sarebbe bellissimo. Con Bianca Berlinguer sarebbe stupendo. La spalla di Bianca Berlinguer subito, perché la amo. Quindi. Ma appunto, è una cosa adorabile, vedi che abbiamo molte cose in comune. Erotico. Erotico addirittura. Erotico, bellissimo. Cioè la ami eroticamente. Amo eroticamente la Berlinguer e anche la... Come si chiama quella con quella faccia da indiana bellissima che è presente? Ah sì, la... Come Cuffaro. Si chiama? La Cuffaro! Ma cioè, proprio, avresti una... Cioè, se potessi... Ma meravigliosa! Vorresti avere una storia sessuale? Vorrei avere un flirt con la Cuffaro e la Berlinguer insieme, una cosa assurda, no? Pazzesco. Ma no, ma non è così libertino poi Giuliano Ferrara alla fine, cioè, ma che libertino, appunto. Io sono un è il contrario cane, di Berlusconi da questo punto di vista, cane bassotto, il contrario da questo punto di vista di Berlusconi, ma Berlusconi a me sembra un tipo piuttosto casto, poi sai le chiacchiere adesso casto adesso, ma sì, io lo vedo un po' così, una specie di frate monacale, sta sempre lì in quel convento di Arco. Ma quale convento? Qui c'è la gente che si è travestita da Boccassini, Giuliano, ma smettetela, che avete vergognosamente vissuto per mesi e mesi di quell'abate Farinella lì di Genova che vi l'abbiamo fatto scatenare, sì, l'abbiamo fatto vergogna, scatenare. Ma perché ti dobbiamo lasciare adesso alle 20? Che devi fare alle 20? Che devi fare? E devo finire il mio articolo. Ah, devi finire l'articolo. Sì, e poi chiudo il mio giornale. Va bene, allora fammi una cosa, alle 20 ti richiamo 2 minuti solamente, alle 20:02 ti va lascio. Va bene, un 20 bacio, richiamo l'editoriale. Tienimi da conto, Monti. Tienimi da conto. Beh, sulle note di Tienimi da conto, Monti, spettacolare produzione di Giuliano Ferrara, by Il Foglio, insomma, ha fatto il giro del web nei giorni scorsi, e correntemente domani Il Foglio pubblica una lettera di Schifani in cui dice a Berlusconi: a Berlusconi, ammetti che hai fatto un disastro, questa è la sostanza, abbiamo sbagliato e bisogna stare dalla parte di Monti fino alla fine della legislatura, poi si vede. Ma capito, ma dopo che succede? Qui nel centrodestra sono tutti contro. No, è dopo il problema, fino alla fine della legislatura facciamo il solito inganno all'italiana, che governano in tre, e fanno tutti e tre finta di essere anche all'opposizione. Anzi, Casini lo escludiamo dal novero perché sta in mezzo e aspetta che la manna scenda dal cielo. Ma chi può essere un nuovo Berlusconi che mette insieme un nuovo non so, si è candidato Mentana. Ma sono più vicino ai radicali nonostante Pannella. Ma chi se ne fa appunto? Ma che vuol dire più vicino ai radicali? Ma no, vicino ai radicali. Ma Pannella che... adesso candida la Bonino, ma candidi se stesso che è un vecchio smagliante con i capelli d'oro, il codino. Ma poi basta con sta candidatura della Bonino. Questo odore delle capora, basta con la Bonino, su. Ormai la Bonino è organica al Partito Democratico, poi tutti lo sanno. Cioè, ma non, sì, non... ma poi ha già perso per la regione. Ma sì, ma poi Italia... Ma Italia Pulita, se fosse vero, non è una cosa terribile? Italia Pulita. Italia Pulita è spaventoso, ma quello penso che sia un colpo di sole preventivo, preestivo. Ma come Italia Pulita? Ma Mani Pulite la chiama Berlusconi la sua lista. Un po' gli piace, gli piacque Mani Pulite all'uomo all'epoca, gli piacque. Sì, è vero, all'inizio faceva un po' il... Lo cavalcò, faceva quello che a Roma chiamano il finto burino. Come il finto burino? Cioè, in che senso? E beh, insomma, il TG5 era schierato con Di Pietro e poi dopo... Esatto. E chi lo chiami non finto... era precisamente con Di Pietro. No, chi lo chiami finto burino? Lo chiami, comunque, sentite, Berlusconi... è un po' matto, un mattocchio. D'altra parte mio nonno scrisse un famoso articolo: date un matto ai liberali. Diciamo che gliel'abbiamo dato. È pure troppo, però. È pure troppo. E so, e soprattutto però, non, però, non ha fatto liberale. Però poi alla poi. Fine non ha fatto anche questo. Io sono per tenetemi da conto Monti e ci mi batterò come un leone perché questa scelta venga fatta. Non capisco perché. Comunque, vabbè. Se, vabbè, è perché sono fissato. Ti fissi con le cose. Tienimi da conto, questo non fa niente. Adesso domani scrivi ma come che non deve. Non fa niente. Scrivi che deve essere cattivo. Le cose sensate. Le pensioni ha fatto. Le pensioni. L'unica le pensioni. Pensioni. Le pensioni. Le per pensioni. Carità. Infatti, alzo le fino a dicembre. Alzo le mani. Dico, riconosco. Sì, lo so, sei sulla linea Lesina Giavazzi, che oggi sono così severi che hanno detto ci pare che il governo Monti abbia fatto delle buone cose nelle prime tre settimane sì. di vita. Sì, è vero. Una condanna bestiale. Che poi sono sicuro che se andassero loro al governo farebbero uguale a Monti. Ma non sono poi... consulenti loro, tra l'altro, uno di loro. Uno di loro dove era... Sì, però, scusami, è consulente gratuito Giavazzi. Entro la fine del mese si è impegnato a consegnare una relazione su come disboscare i quattrini che vi permettono di andare in onda poi di Confindustria. Beh no, noi andiamo in onda a prescindere dai quattrini. No, detto, sono stato anch'io collaboratore della radio di Confindustria e quindi sono sull'attenti. Però dico, non è così grave. Lui l'ha detto, dice, mi hanno dato questo incarico, l'ho accettato con piacere perché dimostrano di essere tolleranti e liberali perché sanno come la pensano. Però potrebbe evitare di scrivere sul governo dalle colonne del Sole 24. No, scusami, se ti dico, se lui ha detto grazie per avermi dato questo incarico a titolo gratuito, sottolineo, e grazie per avermelo dato proprio perché sapete che io spesso esercito, diciamo, la mia critica nei vostri confronti, il gioco è trasparente. A me solo questo mi interessa. Sai su cosa sono sai su cosa sono invece d'accordo con Parenzo col suo giustizialismo? Un po' sulla vicenda Formigoni, un po' io credo che la Lega sia reato di tuffi in mare non esiste. Io fucilerei tutti quelli che vanno ai Caraibi. Ma io sono stalinista, spero che Parenzo non sia stalinista. No, quello no, io fucilerei quelli che vanno, è vero, in barca ai Caraibi, eccetera, eccetera, mi annoierei moltissimo. Fucilerei, perché esiste la Corsica, che è bellissima, dove mi recherò all'inizio di luglio, esiste la Grecia, il Mediterraneo sudorientale, ci sono 360-400 isole greche pronte, disponibili a darsi al turista. Però ci andava a St. Martens. Ok, ma ci andava con Dacò, uno che comunque era, insomma, voglio dire, si può non andare con Dacò in più vacanze. No, io su quella cosa sono come Celentano, ricordati sempre Celentano quando andò sul palco del grande Tony Renis quando e disse anch'io ho amici criminali. Ah, così. Sì, anch'io ho amici criminali. Ripeto, con Celentano, e quindi non si fanno processi per le amicizie criminali, si fanno processi per reati personali. Io invece una pazza idea ce l'ho. Renzi, leader del centrodestra italiano, di un centrodestra. Sei un genio. È l'unica possibilità. Tu non sai, io ti sento tutte le sere in tassi quando vado a fare Radio Londra. E ormai non mi sento e più. Impazzisco e tutti ridono come pazzi. Renzi è l'unica speranza. Renzi piace anche a me. Ma non ha le palle, non ha le palle purtroppo. Un governo Renzi Schifani, prendiamo uno che viene al 3%. Come fa a piacerti adesso Schifani? Capisco che ha pubblicato la lettera sul foglio, ma oggettivamente. No, scusa, non ti permette di parlare male della seconda carica dello Stato che mi ha dato. No, quello no, però insomma, adesso che sei diventato anche schifaniano, quello francamente. Renzi Schifani, te l'ho detto. Beh, comunque alla fine adesso ti faccio un regalo, no, Puccini, in diretta. Aspetta, che detto, aspetta che ci fa un regalo in diretta, ti Giuliano. Ti faccio un regalo in diretta perché hai evocato il signor Renzi. Sì. Aspetta, perché io no. Sindaco. C'è Giuliano Ferrara, dire. Direttore Ferrara, sindaco. Sindaco Renzi. È l'umile Parenzo della Confindustria. Sì, aspetta, adesso arrivo. Intanto continua a chiacchierare col direttore. Che cialtrone. Renzi. Che cialtrone. Parenzo. Ma perché vuole sfidare la macchina di Bersani alle primarie? È inutile, è inutile, è già segnato. Non mi avete mai messo in contatto né con Scilipoti né con Maristel Polanco, adesso mi mettete in contatto. Beh, con Renzi. Maristel Polanco che fa la canzone con Berlusconi, cattivona, no, cattivona, ma cattivona. La canzone, la cosa più bella che ha fatto Maristel Polanco è la presentazione del TG3, che io rido tutte le sere, il TG3. Di Bersani, e prima c'era la Maristel Polanco. Bravo, ma sai tutto, sai, ma so tutto, sono pazzo, sai tutto, sono un fanatico, infatti ma... non volevo venire, guarda, per conflitto di interesse. Guarda, lo puoi vedere? No, ma vedere dove? Ah, dove, no, dai, la radio, ma dove lo vedi? In esclusiva alla Zanzara parla il sindaco Renzi. Beh, questa è l'esclusiva pazzesca che ci ha regalato sindaco, la notte sera, grande presentazione del suo libro. Costo del libro, sindaco? Cambiato il fornitore di sostanze per Parenzo. Sì, ma questo qua purtroppo il problema, caro sindaco, è che non prende sostanze, perché altrimenti sarebbe tutto più chiaro, più lampante, no, più evidente. Ha cambiato pusher. Ti presento il direttore del Foglio qui con noi, Giuliano Ferrara. Direttore, bacio al sindaco, un bacione anzi. Scusa Giuliano, ma facciamo una petizione per Renzi, leader del centrodestra italiano? Ma io lo voto, però questo non conta niente, anzi può essere molto negativo e dannoso. Ritiro il mio voto. Ah, ritiri il tuo voto? Grazie direttore. Noi siamo qui a una cosa di Vedrò, che prego di sottolineare, è una cosa molto bella. Sì. Di Vedrò c'è Parenzo, però che non capisco cosa stia che a fare l'imbucato qua dentro. Perché ti vuole rompere le balle anche lì. Ah, ecco, perfetto. Ma non potresti andare... tutto il giorno non potresti andare in onda, sarebbe una all news meravigliosa, Parenzo, e noi potremmo anche morire tutto il giorno, e noi tutti a telefonare, a divertirci mentre scriviamo gli articoli, i cittadini che protestano, a rompere le balle a Renzi e cose di questo tipo. Una cosa meravigliosa. Senti, diciamo qualche parolina, sindaco, sull'ipotesi di elezioni a ottobre evocata, inesistente, evocata da qualcuno del Partito Democratico, che dice lei? Ma già risposto, sono tutti d'accordo nel PD, ha detto Bersani che siamo tutti d'accordo per andare a votare la scadenza naturale, per cui come dire, siamo in attesa che. Ma se primarie si fanno? Ma si fanno o no? Perché alcuni dicono di sì, altri dicono di no, altri primarie. Ha detto Bersani che si fanno le primarie il 14 ottobre, per cui noi siamo, io ho già segnato in agenda, mi sono liberato per non sa mai uno se lo dimentica, non va a votare poi. Quindi il 14 ottobre sicuro le primarie del PD, quindi ragionevolmente si va a votare a marzo, aprile, vediamo. Ferrara, ha speranze Renzi alle primarie oppure è già battuto in partenza? È battuto in partenza. Anche secondo me. Però non vuol dire battuto in partenza, che significa? In America è pieno di giovani. Underdog. Che fanno le loro battaglie e si affermano sul palcoscenico nazionale e cominciano a scavare la grande trincea delle loro idee per poi vincere una battaglia finale. Mica si deve vincere sempre, no? Perfino Obama era stato trombato. Come vede la lista Saviano Repubblica, se mai si farà il sindaco di Firenze? Come vede la lista Saviano Repubblica? Che ne so, lista Saviano, lista civica. No, siamo passati dalle primarie a cose. No, ho detto una cosa molto saggia al direttore Ferrara, non è che si può sempre vincere. Io sono un tifoso della Fiorentina, c'è pure la cravatta viola, so bene che non è la cosa più semplice del mondo. Quanto alle liste, vediamo. Ora, credo che la vera sfida del PD sia quella di fare delle primarie dove non fare semplicemente un concorso di bellezza, ma tentare di fare delle proposte per una situazione politica che a mio giudizio andrà peggiorando. Ma devono essere aperte oppure le deve fare solamente il PD? Perché è un'assurdità questa qua delle cose aperte, cioè possono partecipare pure persone, cioè so primarie del PD o degli alleati del PD, e poi chi sono sti alleati? Ancora non si è capito. Io parlo chiaro, qui parlo come la gente. Io credo che questo problema, se mi trovo la gente con 3G che mi dice che il problema della gente è capire se sono primarie aperte, chiuse, ma no, beh, spalancate, socchiuse, ma no, a mezza via, non gliene frega niente, la gente vuole sapere chi è il candidato leader del centro-sinistra per i prossimi 5 anni, e lo decideranno le primarie, pacatamente ma anche serenamente, direi. Pacatamente e serenamente, vabbè. Vi ripasso Parenzo perché però ci venga a trovare presto, Renzi. È una promessa prima della fine dell'estate, prima della fine dell'estate. Che hai già in crisi di astinenza. Esatto. Prima della fine dell'estate, promesso? Promesso, e un abbraccio al direttore. Baci. Ciao Giuliano, ciao. Bacio della morte. Ciao Giuliano, a presto. Voglio solo ricordare. Non ti lascerei mai, Non ti lascerei. Il sindaco di questa sera a Roma. Che vuoi? Che vuoi, Parenzo? Che vuoi? No, voglio solo ricordare l'appuntamento di questa sera del sindaco a Roma. Ma chi se ne frega? Ma se non è caculo, veramente? Ma Giuliano, ma è una cosa pazzesca, ma ti rendi conto o no? Ma scusa. Beh, siamo qui 800 24 00 24. Giuseppe, provincia di Chieti. Provincia di Chieti, Giuseppe. Buonasera direttore, bonsoir. No, direttore no, direttorissimo al massimo, direttore. Direttorissimo. Allora, questa sera il suo aiutante l'ha fatto innervosire più del solito, lo ammetto. Qual è l'aiutante? Oddio, questo aiutante, questo è quello dell'aiutante Giuseppe della provincia di Chieti, un altro matto qua. Mi ascolti? Sì. Mi ascolti? Dunque. No, dica a chi ridacchia che lui può andare a un circo Orfei, glielo trovo un posto, perché lui oramai è sprecato come giornalista. Comunque andiamo al sodo. Non offende il circo Orfei. No, volevo una piccola parentesi. Quando rivede la sua amica, sì. Quella lì che sta in Europa, no? Chi è? È quelle che ha parlato prima, che mi sono dovuta sucare. Ah, no, signora Alfano, che si è dovuto, sucare. Allora, ha detto. Quella lì, gli può dire quando la rivede che prima ha buttato fango sull'Italia, ha sparato di Berlusconi, si sciacquasse un po' la bocca prima di parlare di Berlusconi e del PDL. Prima era da quelli che gli ha fatto di Pietro. Chiusa la parentesi. Chiusa la parentesi. Poi? Ha sodato. Ma è vero, Giuseppe, sponsorizzati è vero. Dai gay, no? Siamo sponsorizzati dai gay, sì. Siamo sponsorizzati. No, ma è certo, no. Cioè, parla tutte le sere di gay. Siete diventati esperti di gay. Diventati esperti dei gay. L'ascoltatore ha dei seri problemi. Sere fa. Sì, certo. Si è capito che vi sponsorizza a voi. E anche i musulmani, i talebani, sa perché? Ah, non c'è dubbio, guardi. Ma cosa sei? Sì, no, ma mi faccio. No, mi spiego. Allora. Un signore disse che non avrebbe mai dato in sposa un musulmano, che io chiamo talebano, sì. Sua figlia. Allora il suo aiutante ridacchiava. Un marocchino, veramente, non un talebano. No, talebano. Allora io. No, talebano, un marocchino e un talebano sono due cose diverse. Comunque, se lei vuole, se gli piace così, vada avanti. Ma scusi, posso dire musulmano e talebano? Cioè, da dove sono usciti? Vabbè, andiamo avanti. Allora io avevo capito che il suo aiutante volesse dare in sposa a qualche talebano e volesse andarsene in Marocco, in Pakistan. Io ero contentissimo. Ho detto, guarda, la volta vuole che se ne va. Si fa crescere la barba, si mette il turbante e poi gli tagliano il collo. Ok, però se se ne va, gli pago pure il mi sono andata. Lei, come al solito, fa fatica a capire, però la cosa non mi stupisce, quindi poco male. No, vabbè. Guardi, lei ha lavorato qualche volta e mi dà su, cominci a prepararsi perché i tempi stanno cambiando. Adesso se questo qua, il direttorissimo ce l'ha sotto la sua ala, però vede, lo fa innervosire tutte le sere lo vedo sempre più nervoso il direttore, prima o poi lo caccerà fuori, perché i bolscevichi, cioè, già ce l'aveva uno, l'hanno cacciato, cioè, lei fa perdere punti. Ho sentito la classifica di Radio 24 è precipitata al decimo posto. No, veramente non è precipitato per niente, guarda. Lei è informato male, cioè. No, è precipitato. Ma non è precipitato nulla, qui è precipitato solo lei dalle scale, secondo me, battendo anche forte la testa. È l'unico direttore, mi ascolti. L'ascolto, però scusi un attimo, devo mandare il traffico. Strade in diretta. Buonasera, code a tratti sulla tangenziale nord di Milano dopo un incidente ora rimosso tra Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione della Milano Meda. Ancora per un incidente rimosso sulla 4 Milano Brescia, residue code a tratti in direzione Milano tra Dalmine e Capriate. Per traffico intenso poi altre code in uscita agli svincoli di Dalmine e Bergamo in direzione Brescia. A nord della capitale ricordiamo la chiusura della Tiberina Ariano all'altezza della Flaminia per il presidio antidiscarica con conseguenti ripercussioni in viabilità in tutta la zona. Inoltre per una fuga di gas è chiuso largo Boccea da piazza Irnerio. Infine per lavori la 3 Salerno-Reggio Calabria è chiusa tra Campotenese e Morano-Castrovillari in entrambe le direzioni sino alle 9 di domani mattina. Ed è tutto, appuntamento tra mezz'ora. La Zanzara. Zanzara party. Allora Giuseppe, vada. Sì, no, volevo dire che il suo aiutante è vero, cioè, vi sta facendo precipitare. Ancora con sta aiutante? No, ma io ho sentito, io pensavo, mi aspettavo al quarto, quinto posto, sta al decimo posto. Ma non siamo mai stati al quinto, sesto posto, quarto, quinto posto, mai stati a quella, in quella posizione lì. Senta, professore, ma lei ha preso la... Senta, ma lei è un esperto di ascolti radiofonici, professor Giuseppe, o no? Un attimo solo, un attimo. Professore, non un attimo, professore. Un attimo. Grazie. Pronto? Sì, onorevole Gaffuri? No, ha sbagliato il numero. No, come sbagliato? Ma no, è lei. Scusi? Sto parlando con Luca Gaffuri, capogruppo del PD al Consiglio regionale, eh? No, ha sbagliato il numero, le dico. Ok, grazie. Prego. C'è ancora Giuseppe? Secondo me è lui. Giuseppe no, Ernesto da Roma. Pronto, buonasera signor Cruciani. A lei Parenzo, mi sente? Sì, buonasera. dica. Io volevo dirle che in merito a quello che, di cui parlava con il mega direttore Ferrara in materia di scenari elettorali, volevo darle uno scoop, di cui però non posso rivelarle la fonte per ovvi motivi discrezionali. E lo scoop è questo: si sta allestendo una lista, un partito, Parenzo, che avrà come fondatore... Pronto? Sì. Che avrà come fondatori, come epigoni, Monti, Montezemolo e Passera, sì. Che rastrellerà circa le previsioni più del 30% delle preferenze degli elettori. L'altro 20% lo prende Grillo, il restante 40-45% è astensione. Per cui la cosa clamorosa è la sinistra, questa rivoluzione. E la sinistra quanti voti prende, scusi? Niente, cioè, spariscono tutti, sparisce il PD, Parenzo. Il PDL, Casini, Di Pietro, tutti via, saranno solo due blocchi, sì. Grillo e gli altri. Grillo e Monti, Passera e Montezemolo. Bene, Ernesto. Uno, e finisce questa iacovella di questi politici, non so come farete la zanzara voi. E lei per dire questa cosa quanto ci ha pensato per dire sta stronzata, no? Giusto per capire. Guardi, non è una stronzata, è uno per dire sta stronzata, lei quanto ci ha pensato, giugno... no? Giusto per capire. Pronto, Parenzo, oggi è 6 giugno 2012, risentiamoci fra un anno e vedrà che lei ci rimangerà la stronzata di stasera. Vabbè. Grazie, okay. Giuseppe dalla provincia di Chieti, siamo ancora con Giuseppe dalla provincia di Chieti, qui stasera ambulanza ci vorrebbero, Giuseppe. No. Pronto? Sì. No, era caduta la linea, ma nel frattempo... Sì. Nel frattempo... Sì. Mi hanno telefonato un paio di circhi. Sì. Circo Orfei... E un altro, gli serve un pappagallo e uno che ridacchia sempre. Io ho detto, ce l'ho un probabile... Un giullare, diciamo, un giullare. Aspirante. Sì. E chi sarebbe? Io l'ho detto, il suo aiutante, no? Aiutante, sì. Lo pagano bene, 2000 euro al mese. 2000 euro al mese. Guadagna di più Parenzo però, eh? Ma lo so perché sta sotto la sua, lo paga lei, ce lo so. No, veramente io no, per fortuna non lo pago io, cioè, per fortuna non lo pago io. Io sono preoccupato pure per lui, anche se lui pensa che gli voglia, cioè, quando non sarà più con lei, che cosa farà? Morirà di fame. Morirà di fame, sì, bellissimo. Va bene, grazie. Paolo da Siracusa. Paolo da Siracusa. Pronto? Sì, dica. Pronto, buonasera. Sì. Io mi volevo collegare a quanto avete detto all'inizio della trasmissione sulla fiducia a Formigoni. Secondo me Formigoni deve essere sfuggiato già anni fa, quando ha presentato le quasi 1000 firme false per la presentazione della sua lista. Anzi, è ancora in corso la causa. Sì, civile, sì. Però posso dire una cosa che a me della storia posso dire una cosa che farà arrabbiare i radicali. A me questa storia della firma ormai non me ne frega più niente, cioè non me ne frega come? Più non me ne frega più nulla di questa storia delle firme. Il punto principale. Sì, ok, però non me ne può fregare non me ne può fregare di meno della storia delle firme ormai mi sembra che sia un altro il problema. Io ti basta sul rispetto delle regole, se no che come andiamo avanti. Se già in quel momento non rispettano le regole, dopo non lo faranno ancora peggio, e infatti l'hanno fatto. Dico male? Sì, vabbè, ma va bene, le firme di Formigoni, avanti. Firmigoni, come dice Pannella. Firmigoni. No, ma oggi il tema non è le firme di Formigoni. E qual è il tema? Oggi il tema è la Lega Nord, che nonostante le critiche salva Formigoni. Oddio, ma che sei fissato. Ma non, una cosa sono le critiche. Non hanno mai detto togliamo la fiducia a Formigoni. Di fronte come a una no? mozione di sfiducia. No, non hanno mai detto togliamo la fiducia a Formigoni. Tu ricordi male, perché invece Bossi, quando ancora era plenipotenziario, ma sì, ha minacciato Lega, qualche volta. Minacciò più volte di sfilare. Senti, il tema non è questo. Il tema non è questo. Ma perché i leghisti vi piacciono così? Che un giorno dicono una cosa, il giorno dopo ne dicono un'altra. Perché allora Salvini non deve più parlare male di Formigoni. Ma che c'entra? Ma non è che una cosa è parlare male e dire che dovrebbe fare le vacanze sul lago di Como, una cosa è dire che non deve andare in vacanza con D'Accò, un'altra cosa. L'assessore alla sanità della Lega. Fissazione. No, sono fissato, sì, perché siccome lo scandalo... Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Allora voglio sapere se l'assessore alla sanità della Lega non ha qualcosa da dire, visto che non l'abbiamo mai sentito in questi mesi, mai. Bruno da Pescara. Sì, buonasera. Voi dovete costringere Oscar Giannino ad andare avanti. Questa mia è una dichiarazione di voto. Dichiaro il mio voto per Oscar Giannino. Abbiamo bisogno di persone come lui. Facciamo scendere in campo, per cortesia. Lo so, Bruno, noi il nostro contributo lo daremo, il nostro contributo lo daremo e anche forte. Questo è uno Stato corrotto, questo è uno Stato ladro, e in cambio vi dà servizi che sono inqualificabili. Propensione alla spesa pubblica e deficit elevata, questa è la lezione del secolo scorso. E io il tossicodipendente Stato lo voglio fermare, a San Patrignano lo voglio mandare, è chiaro? Viva Muccioli, li chiudeva anche nelle gabbie quando era il caso e rischiava i processi per questo che affrontava. Lo Stato non avrebbe bisogno di niente di meno. Bruno, eccoci qui. Bruno? Domenico da Roma. Domenico? Non c'è. Mi Paolo? Sente? Sì, la sento, dica. Ah, buonasera. Io volevo praticamente fare un intervento per quanto riguarda i carcerati. Prima di tutto ringraziarla per lo spazio che mi concede. E poi appunto suggerire che ci sono dei braccialetti, non so se ce lo ricordiamo, quelli elettronici che non sono stati mai utilizzati. A ridai con questi braccialetti. E che sono costati non so quanto alle nostre... al nostro Stato, insomma, quindi praticamente a noi italiani. Braccialetti, ma adesso bisogna mettere in moto la questione dei braccialetti, scegliere chi può uscire fuori dal carcere per fare cosa non si capisce. Vabbè, comunque se le piace così, se le piace st'idea di tirare fuori i carcerati dalle galere e impiegarli per fare non si sa che cosa in Emilia. No, se le piace soltanto, così. Dico soltanto una cosa, mi perdoni. Lei dice che non è impossibile. Non c'è bisogno, in primis. Due. No, non è possibile farlo, basta. Va bene, lo decide lei, quindi è inutile che stiamo a discutere. Io l'avrei suggerito e quindi tutto sommato mi sembra che potrebbe anche essere un'idea. E vediamo, insomma, la butto lì sperando che qualcuno magari la raccolga e ne faccia un bene. Va bene, ma comunque per carità, io non sto dicendo che è una follia, sto dicendo, anzi no, lo dico, è una follia, è una cosa che un ministro della giustizia non dovrebbe nemmeno dire, se non c'è un piano già. Dovrebbe dire, ho un piano, 1, 2, 3, 4, no, si potrebbero mandare i carcerati. Una proposta. Ma no, non è il periodo che uno fa proposte. Ho buttato lì una cosa. C'è un piano concreto? Esiste? È fattibile? Si può magari fare? Dov'è sto piano? Ma cosa c'è? Ma dov'è sto piano? Dov'è? Ma comunque, magari guarda. Sta lavorando. Scusi, ma il piano si potrebbe anche costruire. Si costruiscono le cose dopo, si devono fare subito, non costruire, fare, no, discutere, fare, giocare, fare. Mandatemi Lutwak. Voglio Lutwak. Voglio Lutwak. Se tutto così semplice e tutto fosse costruito e pianificato, non staremmo ma in ma è il governo dei tecnici, il governo dei professori. Un attimo solo, appunto. Signor Lutwak, voglio Lutwak, una dose di Lutwak alle 20:27, su. Lo scopo di un primo ministro tecnocratico è di essere cattivo, di essere duro, di fare le cose che i politici non sono riusciti a fare. Solo dopo questi tagli si deve arrivare a tagliare pensioni. È così. Gianfranco da Siracusa, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io ho detto prima al suo collaboratore che in pratica secondo me il male dell'Italia sono gli italiani e i giornalisti. Gli italiani perché siamo assuefatti a un modo di fare politica che è strettamente e esclusivamente clientelare. Perché in pratica forse perché foraggiati direttamente o indirettamente, come Giuliano Ferrara, che io reputo dei peggiori giornalisti del servizio giornalistico italiano, vi limitate a smontare e a non fare il vostro lavoro, che sarebbe quello di criticare. Io, uno come Formigoni dovrebbe andarsene a casa, perché è indecente il fatto che vada a farsi le sedie e pagato da un altro. Vabbè. Eccoci qui da Zanzara, 20:33, 800 24 00 24. Stiamo provando a chiamare una persona, Senti. Adesso squilla fra poco, il telefono della Zanzara. Luca, provincia di Milano intanto. Sì, buonasera. Dica. Niente, io darei sicuramente il mio voto per Oscar Giannino, ma ho paura che sarà ben dura, perché la prima cosa intelligente... Lei che cosa vorrebbe fare di Giannino? Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro? Presidente della Repubblica, assolutamente. Un attimo. Non risponde stavolta. E non risponde. Dobbiamo chiedere delucidazioni sulla vicenda in regione, no? Beh, sì. Firmatario della mozione di sfiducia. Però in Grecia. Vabbè, comunque mi sembrava un numero italiano, uno squillo italiano, Luca, provincia di Milano. Allora. Luca, sì, dicevo che darei sicuramente il mio voto come Presidente della Repubblica, vabbè, allora, in una Repubblica all'americano o alla francese, dove chi viene eletto comanda sul serio, non come in pieni Italia, poteri, dove... insomma, pieni poteri. Assolutamente, perché io... Ma è quello che dovrebbe fare Monti, è quello che dovrebbe fare Monti. Se sbaglio io in prima persona, quindi sono io che scelgo i miei collaboratori, non vado a prendere... Va bene, grazie. Eravamo con Gianfranco da Siracusa, però. Allora, Gianfranco, io non ho capito niente del suo discorso, nulla, assolutamente niente. Gianfranco? Niente. Fabrizio da Milano. Caduto. Buonasera. Vada. Scusami. Allora, io spero tanto che lei sia così bravo come è, perché l'ascolto da anni e mi diverto un sacco, ok, a filtrare tutte le telefonate. No, non filtriamo nulla, non si filtra nulla qua. Lei mi deve dire adesso che è vero che le filtrate, perché se questa è la compagine italiana, dobbiamo scappare. Ma guardi via. Che gli ascoltatori che chiamano alle trasmissioni non sono rappresentativi di una benamata cippa, cioè sono rappresentativi solo di se stessi. Io mi dubbio, cara stasera, cioè io e tutti quelli che sono un minimo razionali e logici, perché sennò abbiamo perso, cioè lei ci fa ascoltare quello che dice Giannino e ci porta in delirio, nel senso che ci mette entusiasmo, è una persona preparata. Grande entusiasmo per questa nuova iniziativa della Zanzara, che è la Giannino Collection. Io la vorrei lanciare bene. La Giannino Collection sicuramente ha dei meriti, punto. Ed è un professionista nel suo campo. Vabbè, allora... quando parla e poi ci fa ascoltare il resto, uno dice adesso mi suicido, fugo da qua, immediatamente vendo tutto e me ne vo. Cioè, vabbè, adesso non la metta giù così. Questa è stasera in particolar modo, e ci siamo divertiti un sacco, perché ascoltando posso dire che sembra non riesci più a capire, dici ma così è veramente un bar dove si diverte, io l'ascolto volentieri, riesce a fare audience gestendola così, però mi deve dire la verità, guardi io gli seleziono e non mi si seleziona molto. Nessuno qui, la gente chiama e basta, tra cui ci sono molti da ambulanza, non c'è via di scampo. Grazie, è con noi stasera, volevamo fare un confronto all'americana tra Mario Adinolfi e il sindaco di Civitavecchia per una questione che non è che appassiona le masse, però appassiona il mondo della politica, in particolare il Partito Democratico. L'amico Adinolfi è qui. Ciao Mario. Bene. Presente, soldato presente. E adesso proviamo in diretta a chiamare il sindaco di Civitavecchia, che è 20 minuti che non ci risponde, dunque chiamiamo il sindaco di Civitavecchia. L'ultimo aggiornamento qual è? Che Tidei ha detto prima si deve dimettere pure Adinolfi e poi mi dimetto io, questa è la sostanza? Dimettere da cosa? Non ho capito. No, infatti perché... no, deve rinunciare, che ha detto? Deve rinunciare, che poi non puoi nemmeno, non potresti nemmeno. Ma a cosa rinuncio? Un attimo, è che squilla il telefono, squilla il telefono. Ma magari c'ha da fare, sai, c'è un sacco di cose tra camera Vodafone, e... Vodafone, servizio di segreteria telefoniche. Ha staccato. Però ha detto che era contento, si è messo a ridere, sì, lo faccio e tutto, vabbè, c'ha avuto da fare. È una persona molto occupata, Adinolfi, no? Oggi ha fatto il primo consiglio comunale, ha giurato da sindaco, doveva stare alla camera per discutere delle cose di cui avete discusso immagine in trasmissione. Siccome il dono dell'ubiquità non c'è, forse è stanco, insomma. Forse è stanco, sì, forse è stanco. Ma oggi però è successa una cosa, che si è dimesso all'istante un deputato del Partito Democratico che si chiama Antonello Soro, appena nominato mi sembra, si è dimesso all'istante, appena nominato all'autority, non mi ricordo di chi, alla privacy, se non sbaglio. Esatto, si è dimesso subito, come da regola e da legge, da regola anche interna al PD, come ha fatto il sindaco Siena quando è stato eletto, si è dimesso il giorno stesso. Perché le regole sono queste, a meno che non ci sia un subentrante antipatico, diciamo così, non ci sarà questo. Però problema. Scusa, posso dirti una cosa, che te l'avrei detto anche con Tidei in trasmissione, adesso riproviamo naturalmente. Forse c'è stato un errore di comunicazione che hai fatto, e te lo dico anche se sei un esperto di queste cose. Cioè, secondo me, se te stavi zitto i primi giorni, se non dicevi nulla nemmeno dopo un giorno, non è che hai detto delle cose particolarmente gravi, hai detto, perché poi tu sei un chiacchierone, una persona che vive nel mondo della comunicazione, per cui è normale comunicare. Dunque, è un pensiero che ho avuto oggi. Se tu per una settimana stavi zitto, forse cambiava qualcosa. Come no? No, dici di no, dici di no. ho paura di no. Il problema è un altro. Forse perché ho parlato è successo che in 20 giorni, per esempio ieri, la giunta per le autorizzazioni ha ufficializzato nel suo comitato per le incompatibilità l'incompatibilità di Tidei, anche perché c'è stato un minimo di cancan mediatico. Considera che la legge permette incredibilmente alla giunta di fare un'istruttoria di 6 mesi volendo, invece è stata fatta in 20 giorni, forse perché se ne è parlato, insomma. Servizio di segreteria. Niente da fare, vabbè. Comunque lui ha detto che il 1° luglio se ne va, Il 2 luglio gli telefonerai, immagino. Il 2 luglio non ti risponderà. Allora io scommetto, ma perché voglio fare proprio una scommessa pubblica. E tu di scommesse ne sai qualcosa? Ne so qualcosa. Non sarà il 1° luglio, non sarà il 2 luglio, non sarà, non si dimetterà fino a quando non sarà, gli verrà proprio fisicamente tolta la poltrona da sotto. Questo a me cambia davvero molto poco, ma l'immagine che dà il Partito Democratico di se stesso al paese, bravo, secondo me è veramente triste, perché vedi, la vicenda è veramente minimale, non è una vicenda importante, come detto, non appassiona le masse, ma è una fotografia interessante, di come fa il potere ad arroccarsi nel momento in cui ci sarebbe il massimo bisogno di dare un segnale d'apertura, anche nel PD, che poi magari critica i comportamenti su Formiconi e Di Gregorio, insomma. Sì, ma chi è che non vuole? Chi è che non vuole? Cioè, è possibile che Bersani non dico ordini, però dà qualche indicazione, resisti il più possibile perché non voglio stare Adinolfi con rompicoglioni. È proprio questo succede. Queste cose non si possono fare senza la copertura politica, come è ovvio. Quando a Bersani è stato chiesto esplicitamente, allora direi si deve dimettere, se vai a vedere sulle agenzie, lui ha risposto decide il gruppo. Ma che vuol dire decide il gruppo? Non è che decide il gruppo. Non può decidere il gruppo, perché c'è la legge, al limite decide la giunta per le elezioni. È evidente, non lo dico io, oggi l'ha detto Matteo Renzi, se andate a vedere c'è una dichiarazione Matteo Renzi, che ha detto chiaramente che c'è un'antipatia, un senatore non proprio Che Guevara, come Lucio Dubaldo, ha detto che è in atto una manganellatura. È questo, poi dopo si può raccontare in molte maniere, però questo è. Ma qual è il problema? Cioè, cos'è che provochi di strano nel partito? Ma tu hai pure dichiarato che sarò un soldato, non sei uno di quelli, cioè di politica mastichi, sai benissimo che come funzionano le cose, non è che sei uno di quelli. Male a tutti, ti ricordi forse io ho fatto 5 domande molto precise a Bersani. Sì, la storia delle primarie, sì, quelle, dei soldi alle primarie. Quelle 5 domande non piacciono perché parlano di soldi. Parlano di soldi. Si può parlare di tutto in politica, ma di soldi no. Intanto squilla il telefono di Tidei, Poiché ho parlato di soldi è successo questo ostracismo che non eccolo, sta eccolo, eccolo, eccolo, aspetta. Inerti. Sindaco. No, il sindaco in questo momento è impegnato, sono il portavoce, buongiorno, chi è? Signor portavoce, buonasera, è la Zanzara, salve. Avevamo un appuntamento per parlare con il dottor Adinolfi della storia. Se avete appuntamento per la dottora di Dolfi, sì, avete sbagliato. No, non ha capito. Avevamo un appuntamento col sindaco per un confronto, confronto con il signor Adinolfi. Lei conosce il signor Adinolfi? È dottore, sì, giusto, è un bravissimo blogger, ma adesso il sindaco però non, aspetta, non è Mario. È un bravissimo blogger, ma lei sa. Abbiamo avuto il consiglio comunale, adesso è in giù. No, no, ho capito, ma lei sa questa storia che il signor Adinolfi, come lei dice, bravissimo blogger, dovrebbe subentrare al sindaco, no? Sì, è vero. La conosce sta storia? Perché non si dimette il sindaco? Il sindaco ha detto che si dimetterà il primo luglio. Il primo, però ha anche detto prima deve rinunciare pure a Adinolfi. No, lui si dimette il primo luglio indipendentemente da Adinolfi. Ma allora ha detto una così, scherzava quando ha detto, Per fare arrabbiare un po' Adinolfi. Per far arrabbiare Adinolfi, l'ha decisa lei sta strategia come portavoce? No, scherzo. Assolutamente no. L'ha decisa direttamente il sindaco, così per fare un po' di casino, diciamo. No, perché casino? Vabbè, casino. Ognuno esercita i diritti come prevede la legge. Se guardi, io posso anche provare a vedere se il sindaco in questo momento provo, però non posso entrare in giunta. Magari, ma perché no? Ma qui alla Zanzara si può fare di tutto, dottore. Alla Zanzara sì, ma nei comuni italiani vigono delle regole. Vai, comuni italiani, sì, comuni italiani. Perché così no? Mi fa segno che è impegnato. È impegnato, è impegnato. Signor portavoce? Sì. C'è Parenzo che le vuole dire qualcosa. Signor portavoce, porti questa voce al sindaco. Porti questa voce al sindaco. Si dimetta al più presto. Ha detto il primo luglio, però. Ha ma detto perché il primo? Perché il primo luglio? Perché che deve il fare? Il 30 di giugno c'è il bilancio. Chiuso il bilancio comunale preventivo che non è stato a Civitavecchia, non c'era, perché la precedente giunta non l'ha lasciato. Il primo luglio il sindaco si dimette. Scusi, che c'entra il bilancio comunale con l'incarico da deputato? Milioni, con 31 milioni di euro di buco che non sono finti. Ma lui continua a fare il sindaco, si deve dimettere da deputato, non da sindaco. Ma certo, però bisogna vedere se riesce a quadrare i conti. Come appena quadrati i conti, c'entra. Ma che c'entrano i conti dei Civitavecchia, scusi, con qualcosa? C'è un'opzione che lui può esercitare e la eserciterà. No, ho capito, lei dice deve fare, c'è il bilancio di Civitavecchia, sì certo, infatti lui rimane a fare il sindaco e si deve dimettere da deputato. Che ha Quando fare il sindaco, se poi arriva il commissario e porta via tutto perché il comune viene commissariato e il bilancio va in default, così non sarebbe. Non sarà così, perché sennò non avrebbe annunciato che il primo luglio si dimetta. No, ma perché a che serve sto mese da qui al primo luglio? No, così per sapere. A sistemare i conti del comune, se i conti non quadrano lui esercita l'opzione. Ah, perché secondo me è una furbata perché sennò rimane senza. Poi c'è tutto un divertimento che possiamo così giocare, se di Adinolfi è ancora del PD, non è ancora del PD. Come è del PD? Come no? Come non è del PD? Certo, no, si è dimesso dal PD. Ma quando? Ma Adinolfi si è dimesso dal PD? Assolutamente sì. Assolutamente no, ho dichiarato l'iscrizione al gruppo del PD, la prima cosa che ho fatto, quindi insomma, ognuno voglia inventare una scusa in ogni maniera. Resta fino al primo luglio, perché il 30 giugno altrimenti rischierebbe di perdere la fortuna. Tutto qui, questo è il meccanismo. Non vuole, correre alcun rischio e i cittadini pagano questa condizione di illegalità. No, sul punto che Adinolfi si è dimesso dal PD dobbiamo essere, o sul blog c'è scritto una cosa sbagliata, c'è una lunga lettera. Ma lo saprà lui se si è dimesso, no? È qui a dirlo, non si è dimesso, punto e basta. Cioè, non si è dimesso dal PD, perché si doveva dimettere dal PD? Perché l'ha scritto lui, ha detto che si dimetteva per due motivi. Con la critica, aspetta, Mario. Ha meritato questa manganellatura. Vabbè, no, comunque, in ogni caso, lasciamo perdere adesso dimesso o non dimesso. Signor portavoce, il punto è fondamentale. Se questo mese serve a garantire il sindaco che non perde tutte e due le poltrone, questa è la sostanza, no? No, questo mese serve a garantire il sindaco che nel momento in cui lui esercita l'opzione potrà esercitarla liberamente, appunto, diventando sindaco di Civitavecchia. Appunto, altrimenti se si dimette da parlamentare, se si dimette da parlamentare e poi magari succede l'impensabile, perde pure la poltrona del sindaco di Civitavecchia, questo è il punto. Se si dimette da parlamentare e succede l'impensabile, non ha esercitato l'opzione che la legge gli prevede come libero cittadino prima ancora che come onorevole, no? La legge è uguale per vabbè, tutti, comunque, per Adinolfi, per Renzi. No, va bene. Senta, però noi abbiamo un appuntamento. Ma se lui ancora la giunta non l'ha finita, io purtroppo più che fare disegno non. Certo, non va bene. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao Mario, alla prossima. Arrivederci Adinolfi. Segnaliamo solamente che questa cosa del doppio incarico rimane illegale, anche se uno decide di non voler rischiare nessuna poltrona, questa cosa per la Corte Costituzionale, la legge lo statuto del PD, il suo medico. No, ma è soprattutto secondo me il punto non è l'illegalità, tanto l'illegalità, perché sarà sicuramente una questione di, appunto, bisogna avere un passaggio alle Camere. La questione è il Partito Democratico, che ha fatto sempre della questione delle dimissioni immediate un punto di forza. Ne ha fatti dimettere 10 un mese fa, No, ma infatti fatti dimettere 10. Il punto è PDL della Lega, certo. Il sindaco di Siena che abbiamo citato prima ha perso la poltrona da sindaco anche dopo essersi dimesso da deputato, perché ci sono stati gli affari, certo, del Monte, certo, Paschi Siena. Succede, non è un dramma. Succede in politica, succede, non è un dramma. Siamo qui, Pasquale da Rimini, anzi no, eravamo con Gianfranco da Siracusa, Gianfranco, poi Pasquale da Rimini, Maurizio, Furio, altri ancora. Gianfranco? Ma c'è o non c'è sto Gianfranco? Pasquale? Pasquale? Sì, sono qui. Eccoci. Buonasera Cruzzani. Mi dica. Guardi, io l'ascolto da tanti anni. Sì. E tutte le sere ho sempre la voglia di chiamarla per dire che è diventato quasi inascoltabile. Vabbè, me ne farò una ragione. No, ma fa bene, perché comunque dire, il suo asintomatica del divertissement, come lo chiama lei, è sicuramente. Com'è che lo chiamo io, scusi? Divertissement. No, veramente l'avrò detto non una volta. Così? Sì, ma non è così? Lei si diverte? Ma guardi, francamente no. No, vabbè, mi dispiace. Con molto piacere. Mi dispiace. Erano ottimi approfondimenti. Non c'erano approfondimenti, comunque va bene. Ovviamente devo dire che francamente deluso, sì, da aver perso un punto di riferimento di approfondimento serale che è diventato quello che è, che però ripeto, lei fa bene perché è il suo business, le va bene, però la voce di uno che dice ogni tanto magari qualcosa di ascoltabile e approfondimento un po' più serio, che però ripeto, il business è il business. Ma non è più Cruzzani. Sì, ma non è quello che è ascoltabile o inascoltabile, siamo nel campo della filosofia, pura filosofia. No. Giudizio personale. Ah beh, ma infatti lei, per carità, filosofia è una parola troppo grande per me, voglio dire, io sono una persona comunissima, filosofia è un'altra paio di maniche. Va bene Pasquale, quindi, grazie. Tutto qui. Rispetto molto quello che lei dice, ma un abbraccio forte. Un abbraccio molto forte. Maurizio dalla provincia di Arezzo. Sì. Maurizio? Buonasera Cruciani. Dica. Sì. Senta, dunque, no, intervengo per la questione dei carcerati, perché mi sembra che nelle schermaglie con Parenzo qualche volta lei finisca per sembrare un po' ottuso, onestamente. Quello che cerchiamo tutti di farle capire con le varie telefonate che abbiamo fatto è il valore pedagogico dell'accostamento di un carcerato a un volontario della protezione civile. Esatto. Io sono un donatore di sangue, sinceramente quando esco ho fatto un gesto gratuito. Cioè, sono sicuro che ho fatto qualcosa di gratis, di bene e di gratis. Sono sicuro di aver fatto qualcosa di gratuito. Accostare un carcerato in un contesto come quello del casino che è successo a sua Modena lo aiuta ulteriormente a capire, a instradarsi verso una vita più corretta, perché lì veramente c'è una situazione talmente drammatica che non è da paragonare a un contesto lavorativo normale, quale una paletteria o un cantiere edile. Lì veramente c'è il bisogno vero della gente, cioè la figura del carcerato lì va a capire veramente il succo dell'utilità e del sentirsi utile. Esatto. E questo lei mi sembra che non lo vuole capire, o lo no, so. Non è che non lo voglio capire, io penso semplicemente che la cosa sia totalmente inattuabile, non serva assolutamente a nulla. Dovrebbe coinvolgere persone che devono essere controllate, dunque è difficilmente realizzabile. Non è così. Bastano queste cose per provare che un ministro o ha un piano preciso oppure non deve parlare. Grazie Maurizio. Furio da Bologna. Buonasera dottore, Mada, tre cose velocissime, magari Giannino al posto di Monti, che è anche molto più bello da vedersi, tanto per cominciare, insieme con tutto il suo entourage. Seconda cosa, contingenti militari, finanziamenti all'estero per investimenti tecnici eccetera eccetera, la guerra ce l'abbiamo in Italia, ce l'abbiamo a casa, ce l'abbiamo nel terremoto qui a Modena a 20 km da Bologna. facciamoli tornare indietro, Francia, Germania, tutti li hanno fatti tornare indietro, siamo solo noi che spendiamo, forse ci sono troppi interessi, industrie belliche, forse c'è questa cosa qua, allora questi ministri vadano a casa insieme con i politici di prima. Ultima chicca, spending review, vuole sapere dove hanno tagliato con la spending review? L'unica cosa che hanno tagliato questo governo, hanno tagliato sulla legge 133, sulla detassazione di 5 milioni di lavoratori italiani che con la detassazione del lavoro notturno degli straordinari guadagnavano 30-40 eurini, lì hanno tagliato tutto. Ecco, con questo ho già finito e la ringrazio. Grazie, per avermi ospitato. Grazie. Mauro da Bologna. Sì, ciao Cruciani, devo dire, faccio una premessa, io sono veramente d'accordo con te, però stasera volevo dire che sono d'accordo con te sul fatto che secondo me è una buttata quella del ministro Fornero. Trovo che sia non è Fornero, è Severino. Scusa, sì, scusa. Trovo che sia irrealizzabile e che, a parte che a me sembra anche una sciocchezza, gente che va a camminare nelle macerie, si fa una caviglia, come facciamo? Cosa lo mettiamo in mutua? Non so, mi trovo davvero strano. In ogni caso, dicevo, se dobbiamo riabilitare i carcerati, ci sono altre forme, per esempio, non so, potreste mandare uno a casa mia, ho bisogno di una badante, magari prende contatto con la gente. Non mi sembra che debba essere riabilitazione, riabilitare usare un terremoto per riabilitare i carcerati. I carcerati devono fare i carcerati e se sono idonei e fanno dei lavori all'esterno, faranno i lavori all'esterno, non li facciamo lavorare quando c'è il terremoto. Sì, soprattutto fanno lavori all'esterno quando la legge lo consente, quando la legge lo prevede, non perché c'è il terremoto. Comunque, se passa questa cosa, io mi candido, chiedo se mi potete mandare una badante. Benissimo, da quale carcere? È già così. Ma è già così cosa? Certo che è già così. Ci sono già, perché voi non sapete come funziona. Certo che è già così. Certo che è già così. Sì, abbiamo capito, Mauro, la badante. È già così. Certo che è già così. Voi non sapete, purtroppo. Ci sono che cosa? Io, siccome mi ho seguito molto le questioni. Ma ci sono cosa? Cosa c'è? Il lavoro in esterna dei detenuti è regolato dalle cooperative che lo gestiscono. Ma cosa c'entra con quello che ha detto il ministro Severino? Non c'entra nulla. Perché lei ha dato semplicemente una suggestione e un'idea. Ah, bene, il ministro dà suggestioni, benissimo. Ha detto potremmo impiegare in non so quali mansioni, perché quando non sai niente, non ha detto niente, praticamente tu già stai dicendo che ha detto delle cose corrette. Benissimo. Ma voi la state scuoiando. Ma non stiamo scuoiando nessuno. Sono gli ascoltatori inutile che intervengono, io non dico nulla. Perché alcuni ascoltatori non sanno e sono. E invece sei tutto tu. Non so tutto ma tu, nessuno è terrorizzato, guarda, nessuno. Nessuno sì, è terrorizzato. C'è una campagna criminale. Ma quale campagna criminale? Ma stai zitto. Di chi sta scontando una pena. Vabbè, Andrea da Catania, fammi sentire gli ascoltatori che dice un sacco di puttanate stasera. Okay. Andrea da Catania. Sì, buonasera. Pronto? Sì, vada. Buonasera Cruciani, buonasera Valente. Allora? Io faccio i complimenti alla trasmissione. Senta, io vorrei accodarmi a quell'ascoltatore che poco fa parlava di Oscar Giannino. Io sono d'accordo con lui, concordo con lui, inviterei Oscar Giannino a presentarsi alle politiche perché è una persona vera ed è una persona preparata, forse qualcuno è l'unica tra le poche persone che dà delle soluzioni intelligenti e logiche a tutto quello che stiamo assistendo in questo ultimo periodo. Bene, continua la campagna, qui Giannino for President, da domani ancora la Giannino Collection, Maurizio dalla Spezia, forza! Cruciani, buonasera! Animo, su! Sì, sì, subito. Volevo dire questo, che siccome c'è bisogno di gente come Giannino, perché non è distaccata dalla realtà come in realtà allora quello sono quelli che formano la governance dell'italianità. Sì. Stiamo finendo, lei mi parla di governance, su. Prego. C'è bisogno di Giannino. Benissimo, concludiamo così, a domani 18:30. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.